guardati un film e porno e non sfruttare la tu donna. Tu li vedi film porno, Mauro? No, una, mi aveva regalato un, 3 o 4 un vecchietto, però mi avevano annoiato, li ho dati a un ragazzo. Più porno lo guardi, no? No, no, no. Non ha no, tempo, per carità, non ne frega non, niente. Ma no, preferisco farlo che guardare. Cos'è ma che ti eccita di più di una donna? Il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Peppe, al paese mio si dice cornuto e mazziato, ho pigliato mia moglie con un altro nel letto di casa, si piglia 550 euro al mese, cose da mettere sui giornali, l'ho pizzicata che stava a scopa con altro, sono rientrato prima a casa, io vado a lavorare. Entro in camera da letto e trovo questi due che stavano a scopa come matti, sul letto mio, sul letto mio. Io l'ho portata per Roma, per Firenze, per Venezia, gli ho fatto vedere le bellezze d'Italia. Questa è tornata dal fidanzato, è tornata da grande zoccola. Da grande zoccola. Da grande zoccola. Buonasera. Senta, signori, da quando mio figlio ascolta la vostra trasmissione, non lo capisco più. Siete persone orrenti e sboccate. E sboccate. Allora ragazzi, ragazzi miei, io cosa devo dirvi? Certe persone, Parenzo, io non so nemmeno come giudicarle ormai, perché ne abbiamo dette di tutti i colori contro questi signori vegani. Cosa dobbiamo dire di più? Cosa aggiungere di più? Cosa vuoi aggiungere? Niente. Aggiusta il microfono, rimortacci tua. Aggiusta il microfono. Qua, mi senti ora? Sì, sì. Ah, meno male. Davide? Sì, chi è questo Bughini? David? Sì, sì. Mugolo, dimmi, caro. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Siamo pronti, questa volta hai ragione, Mugolo. Che cazzo, dai. Sì, era perché qualcuno ha urtato. Ma no, qualcuno ha urtato un cazzo. C'è che si donne. Allora, ragazzi, allora, la cosa, io ne ho detti tutti i colori contro questi signori vegani. Ne ho detti tutti i colori, secondo me... Ha ragione, ne ho detto sì, tutti su colori. Questo sicuramente sì. Però quando vedo certe cose mi sale proprio non la rabbia, mi sale la bile, no, no, ma mi sale proprio la ti sale la tristezza in alcuni momenti, veramente la tristezza, perché non riesco a concepire come si possa arrivare a dei livelli simili. Adesso di che parliamo? Non stiamo parlando delle solite cose, stiamo parlando del caso di Alatri. Uno dice: c'entra qualcosa il caso di Alatri con i signori vegani oltranzisti, con i signori estremisti? Uno in teoria no, cosa c'entra? È un omicidio feroce avvenuto in una provincia italiana di cui si parla ormai da giorni, siamo alla ricerca, tutti quanti sono alla ricerca dei colpevoli, sono stati pizzicati due, si sta valutando la posizione degli altri, eccetera eccetera, tutte cose di cronaca, l'omertà del paese, eccetera eccetera. Allora, esiste una signora, mi dicono molto molto vegana, che si chiama Castellino di cognome, ragazzi, Sara Castellino si chiama, la quale ha con certezza pubblicato sulla sua pagina Facebook, come al solito, una fotografia del povero ragazzo ucciso, Emanuele, no? Con un pesce, era un pescatore. Non c'è nulla il ragazzo male. Ma non è che non c'è niente di male. No, voglio dire, non c'è, cioè, di ma male. Non c'è nemmeno da dirlo che non c'è niente di male. Ma è una cosa normale. Diciamo, però. Andava a pesca. E c'è una fotografia che lo ritrae, ma l'avete vista voi, se qualcuno di voi ha seguito il caso nei giorni scorsi, è stata pubblicata da molti giornali. Sì. Lui con delle canne da pesca dietro e con un enorme pesce, no, che ha pescato non bravo. So dove, dalle sue parti. Questa signora, questa Castellino, ha scritto: Emanuele è stato ucciso. Il pesce anche. Ora, ragazzi miei, qual è l'abbrutimento umano che può portare a paragonare quel pesce lì pescato con una vita umana massacrata in quel modo. Lui me lo soprattutto è come dire che è un assassino anche lui, quindi ma bene quello, che sia finito così. Certamente, certo, ci sono due interpretazioni, no, perché follia, non lo sappiamo. No, è una interpretazione unica, c'è da dare, non è che ce ne sono Emanuele tante. Cioè, Emanuele ha ammazzato il pesce. Certo. E quindi, dunque non ce ne frega un cazzo che è morto. Esattamente, così uno la deve leggere questa porcheria che ha scritto questa pazza scatenata. Un'altra ha scritto anche: il ragazzo ucciso era cacciatore. Morte chiama morte. Non mi tocca. Ma dai, ma chiudi, dai. Una tale, ma perché chiudi? Scusa, no, cosa chiudi? Mi fa cosa schifo, chiudi? Brezzo, chiudi? Ti fa schifo, vuoi... questi sono dei pazzi, sì, sono schifo, pazzi, chiudi, sono detto, pazzi. Chiudi, io sono convinto che ci sono molti vegani che la pensano allo stesso modo. Sì. Siccome questo qua uccideva degli animali, secondo loro, pescando, allora la morte di questo qua, sì, non merita considerazione, non merita il pianto, non merita come tutto questo clamore che c'è in Italia, no, in questo momento. In fondo era un assassino anche lui. Vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. E basta. Però la questione è molto semplice. C'è molta gente, tornando alle cose vere, alle cose concrete, c'è molta gente che pensa rispetto a questo caso che bisogna farsi giustizia da soli. Pure. Beh sì, moltissima gente. Se tu vai a vedere nei forum internet dove sono pubblicate le foto di questi qua, di questi accusati, non mi fa ribrezzo questo mondo della rete così violento. La gente mi fa dice non... io questi qua vorrei ammazzarli con le mie mani. Mamma. Vorrei ammazzarli con le mie mani. Qualche voce da alatri. Quello che hanno fatto a lui, la stessa cosa ci debbono fare. A te chiena si grida vendetta. Con la giustizia purtroppo te la devi fare da sola, schedando e non bagnando nessuno. Un figlio non dovrà nessuno. È una cosa umana, credo, no? Volere vendetta. L'hanno messo dentro per non farli vinciare. Che rischiano di vinciare. Sì, è pure giusto. Emanuele è morto e loro devono stare in vita così tranquilli, no? Il linciaggio è giusto perché lui è morto e gli altri devono rimanere tranquilli in vita. Si chiedono alcuni. Guarda che se tu chiami, adesso dopo vi facciamo ascoltare qualcosa, se tu chiami per caso gli abitanti di Alatri, sì, il risultato è lo stesso. Molti dicono questi qua devono crepare, devono morire. Addirittura alcuni dicono devono essere sodomizzati in carcere, no, barbaramente in carcere, basta, uccisi in carcere. Lo dicono, la gente lo dice. Ho capito, il 90% lo dice. Il 90%, io non sto dicendo che anche a me fa orrore questa cosa, sto dicendo semplicemente che il 90% delle persone che interpelli, la prima reazione è quella. Allora io mi pongo una domanda, ma ragazzi, ma è giusto farsi giustizia da solo? Le grandi domande di dalla vostra parte. Sì, questo non è male. È giusto farsi giustizia da soli? Poi un altro, sentite, dice: albanesi e rumeni bastardi. Scusa, però amico mio, adesso non so chi sia questo non intervistato, ma cosa cazzo c'entro in questo caso gli albanesi e rumeni? Perché ma questo è frutto di c'è una responsabilità adesso, precisa di questa roba. Attacca con la cosa. No, non è il sociologo, ma no, attacca niente, dai, non attacca niente, non attacca niente. Ma è frutto di un clima, però, di una roba. Ma che clima, non c'è dai. Clima? Non c'è un clima, ma di caccia alle streghe del migrante, comunque responsabile di qualcosa. Ma albanesi, rumeni, clima? Si vede tutti. Ma come quale clima? Senti. Ma è evidente, lo registriamo ogni sera, lo fotografiamo ogni sera, lo raccontiamo. Sentiamo ogni sera in questo storytelling radiofonico straordinario. Parla con ma la rabbia c'è, cioè, l'hanno buttato fuori a manganellate dei bastardi. Gli albanesi, i rumeni sono bastardi. Ma cosa c'entra adesso nulla, albanesi? Nulla. Era pure una donna. Le donne. Sì. Ah, mi scordavo di dire una cosa. Le donne nazi vegane, animaliste estremiste, sono le più pericolose di tutti. È incredibile. Sono le più violente. Ma come mai? Cosa hanno dentro di sé? Qual è la rabbia che spinge a dire queste cose qua? Sono soprattutto femmine, donne. Perché? Perché non mangiando carne. Manca il ferro. Vabbè, un cugino credo di Emanuele, sì, un cugino di Emanuele, quello che è stato ammazzato. Sentite, ci ha messo lo zampino al diavolo, ragazzi, però siete parenti, per carità, distrutti dal dolore, però al diavolo che cazzo c'entra? Quello è stato preso a mazzaroccate, dai. Bravissimo, un ragazzo come tutti i ragazzi del mondo. Quelli che l'hanno ucciso forse non lo sono. Sono bravi i ragazzi anche loro. Evidentemente si vede che il destino ha voluto questo, ci ha messo lo zampino al diavolo. No, non ci ha messo lo zampino al diavolo, no. Non erano bravi ragazzi, sono dei criminali. Se lo dice pure un parente, la cosa mi stupisce. Adesso questo sarà sicuramente cristiano, cattolico, apostolico, non lo so. Perché se uno pensa che ci ha messo lo zampino al diavolo, deve essere per forza cristiano, certo, cattolico, apostolico. Bella, ti piace sta cosa? Cristiano, sì, cattolico, apostolico. Molto bello, romano anche. Però romano non l'hai detto perché... Oddio, sì, è vero, romano, cattolico, apostolico. Oddio, forse si ricandida la Boldrini. Dove? Oddio mio, oddio vabbè. Mio! Vabbè, adesso dai. Ho fatto una scelta appunto all'inizio, insomma, di candidarmi perché pensavo che avesse un senso farlo dopo 25 anni di lavoro alle Nazioni Unite. A questo punto credo che non si torna indietro, si va avanti, ma ci devono sempre essere le condizioni, cioè uno deve scegliere di poterlo fare. La solita supercazzola che non vuol dire nulla, la supercazzola, te, no, si vuole ricandidare, si vuole ricandidare, sì, mi voglio ricandidare, sì, se ci sono, ma perché i politici parlano con le supercazzola, ma non vuol dire un cazzo, nulla, niente, zero. Poi dico, sì, sì, sto valutando perché bisogna capire, appunto, se me lo chiedono, beh, è difficile che qualcuno magari dici scusa, per cortesia ti prego, però se me lo chiedono sto valutando se ho le condizioni per farlo, perché il paese ha bisogno di un cambio allora, di passo. Allora ragazzi, è scoppiato il caso del signor Taglialatela, sì, Marcello Taglialatela. Ma non chiamarlo signore, è un deputato, onorevole Taglialatela. Fratelli d'Italia, grande tifoso del Napoli, appartenente alla commissione antimafia che sta giudicando anche a modo suo il caso di Agnelli, rapporti con l'Andrangheta e tutte queste robe qui. Signor Taglialatela, sentito ieri sera da questi due signori che si chiamano Cruciani e Parenzo, ha detto alcune cose piuttosto toste. Ha detto la Juve ha favori arbitrali, la Juve ha arbitri sponsorizzati dalla Fiat, dunque la Juve e la Fiat pagano gli arbitri. Dico Juve merda allo stadio. Questo signore si era fatto ritrarre con una sciarpa dove c'era scritto Juve merda. Cioè dire Juve merda è normale? È una cosa che ogni tanto da un punto di vista calcistico diverte. Cioè lei lo dice ogni tanto allo stadio, è Juve merda, Juve merda. Che ne so, qualche magari volta sì, quando lo merita assolutamente sì. La Juve favorita dagli arbitri, il signor Taglialatela. Adesso che lo possa dire uno qualunque di passaggio, va bene, ma il signor Taglialatela dovrebbe anche rendersi conto, per carità, non sono io a dare lezioni, che è membro della commissione antimafia. Ripeto, che sì, per me andrebbe abolita, cancellata la commissione antimafia, luogo di esibizione, puro luogo di esibizione, non ha nessun tipo di valore, nulla, zero, no, assoluto. Ma perché dici così? Ma zero, questo zero, è un altro zero, discorso. Zero. E dice anche che è normale gridare Juve merda allo stadio. Ammetterà che quando rispetto ai tifosi merita, quando se lo merita è assolutamente e normale. Quando se lo merita, scusi, quando ci sono dei favori arbitrali, quando si comporta, perché la Juve è favorita dagli arbitri, scusi, beh, mi pare proprio di sì. Poi la bufala colossale, gli arbitri sponsorizzati dalla Fiat. Si è dimostrata una bufala incredibile, perché non c'è nessuna partecipazione della Fiat a quella azienda di assicurazioni che sponsorizza gli arbitri. Per cui Taglialatela, che ha dato l'ignorante a me ieri sera, forse dovrebbe spostare l'attenzione su se stesso. No, dovrebbe rinunciare all'immunità parlamentare e, qualora fosse sotto processo, fare il processo anziché appellarsi. Ma a processo per che cosa? Scusa, non ho capito. Beh, per una diffamazione, scusa. Ah, io se qualcuno lo accumula. Perché non è che tutti quanti lo portano. Fossi. Non è che tutti quanti tribunale. Ieri 18:48 è stato commesso un reato con il foro competente, foro di Roma. Per cortesia, Juve, signor Agnelli, amici del cane, eccetera, vi mando io il file audio della registrazione. Ma perché? Silenzio. Oppure lo trovate sul sito del www.sole24ore, radio 24, anzi www.radio24.it. Cliccate sull'iconcina alla zanzara dove c'è la foto di quel morto di fame di Cruciani con i capelli unti e sporchi. Cliccatevi sopra, scaricate il podcast di ieri. Al minuto, credo, 19:50 di ieri è stato commesso un reato. Lo segnaliamo subito agli amici della Fiat. Amici, scusami, della Juve. Che gli arbitri sono sponsorizzati dalla Fiat e quindi dalla Juventus, prendono soldi. Ma non è vero che prendono soldi come dalla Fiat e dalla Juventus, non è vero, no? È falso. Certo. Ma come non è vero? È assolutamente vero. Cioè, gli arbitri prendono soldi dalla Fiat. Gli arbitri hanno una, la federazione arbitrale ha una sponsorizzazione di una società che fa capo alla Fiat. Traffico veicolare. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta La Zanzara. Ragazzi, è semplice. Se volete dire a quale tipo di mafia affidereste il problema dei migranti, o volete dire quale tipo di merda rovescereste sulla casa degli occupanti, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete rievocare orge cinesi di Cruciani, o volete dire la vostra su chi ce l'ha più grosso fra Rocco Siffredi e Omar Galanti, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al Pineto. Naturalmente. Oddio, dopo la ricandidatura della Boldrini anche De Magistris, che dice che dopo aver finito da sindaco si vuole candidare alla guida del paese. De Magistris. Poi la politica mi ha appassionato, quindi dopo l'esperienza di sindaco non escludo assolutamente altre esperienze politiche. Anche di candidarsi, sì, alla guida del paese? Non escludo niente, assolutamente anche... sì. Oh, ultimamente, caro Parenzo, sì, il signor Gasparri si è specializzato. Il signor? Gasparri. Ah, miseria, mi dicevate dei nomi che non ricordo. Aspetta, che devo googolarlo. Gasparri. No, Gasparri, dai, è un senatore, vicepresidente del Senato. Dai, aspetta, non farlo. Aspetta un attimo, perché c'è stato uno che ha insultato, che una volta ci ha mandato, mi pare. C'era, sì, un Gasparri. Ma parecchie persone. Ci ha mandato a fare in culo, sì, sì, siete, cioè, dei criminali, che siamo due criminali, spacciatori, eccetera, ah, quel eccetera. Gasparri là. Sì, vicepresidente del Senato, dai, sì. Non fa... sì, dai, te lo ricordi benissimo. Che si è specializzato, sì, negli, sì, ultimi tempi a prendere di mira il signor Giannino. Signor Giannino. Giannino. Cioè, ogni trasmissione Oscar in cui Giannino. Va. Sì, ma ogni trasmissione, ma in cui va, ogni trasmissione dice ha mentito sui vitalizi, è un mentitore professionale, ma lo ripete continuamente. Perché ce l'ha? Sentiamo una bella carrellata. Sentiamo, sentiamo. Sui vitalizi che bisogna riformare anche per il passato. La prima cosa, caro Campo dall'Orto, cara Rai 1, è non dire bugie, come ha fatto Giannino, che era bugiardo sulle lauree ed è stato bugiardo ieri su Rai 1. Basta la verità. Per il futuro è stata fatta una riforma che dal 2012 comporta... E questo lo sappiamo. No, però lo dobbiamo dire, perché ieri Oscar Giannino è andato a mentire in una trasmissione di Rai 1. Non qui. Dice, non qui. No, Oscar Giannino è un bugiardo perché ha negato l'evidenza. Da ora in poi sono 1000 euro... I vitalizi, che è diventato il problema dell'Italia. Sì. Se domenica alla RAI, lo dico alla presidente Maggioni e al direttore generale, va Oscar Giannino, faccio nome e cognomi, a dire che il vitalizio con le nuove norme è di 15.000 euro, quando è di 1.000 euro lordi a legislatura, poi il pregresso va regolato e si sta discutendo. È il pregresso, no, ma Giannino ha detto su RAI 1... Sì. Cioè, una fissa totale su Giannino, è impazzito su Giannino, impazzito completamente, una roba incredibile. Dai. Simpatico alla fine. Let's go! No, pure stamattina mi dicono, pure stamattina. Bisogna parlarne correttamente. La RAI, per esempio, qualche settimana fa, sì, su RAI 1 con Oscar Giannino ha diffuso una serie di menzogne. Ma Giannino è quello che ha mentito anche sul suo curriculum. Oscar, quindi dice, Giannino è un mentitore era... seriale. Mentitore seriale. Ma perché? Perché? Fabio da Forlì. Fabio da Forlì, dai, Fabio da Forlì. Fabio, dimmi, Fabio, dimmi. Dai. No, quando ho visto quel ragazzo che ascoltavo la televisione, che hanno detto che era un cacciatore e pescatore, sì, veramente il mio primo pensiero è stato un cacciatore in meno, mi dispiace. No, mamma. No, aspetta, aspetta, che Fabio. È fatto sicuro, alla fine che è fatto sicuro, perché no, certe cose non dovrebbero succedere. Però se vanno in giro a cacciare, che poi si sparano tra di sole, probabilmente uno ha cercato di andare... di un dirupo, io non me ne frega un bel niente. Anzi, cioè, Fabio, no, ma voglio capire bene, tu dici, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, Fabio, tu dici, io ho visto quella foto di io quel ragazzo. Io amo gli animali. Sì, ma questo mi pareva abbastanza chiaro. E oggi i cacciatori. No, tu non è che ami meno gli animali, attenzione, gli Fabio, tu non ami gli animali, tu, sì, odi gli uomini, è, sì, diverso. Perché il messo, no. Sì, no, io te lo dico animali, io. I miei soldi li spendo in loro, però, attenzione. Ma tu puoi spendere i quello che ti pare, anche buttarli dalla finestra. I cani, uccelli. Ma sì, ma va bene tutto, uno può spendere i propri soldi come. Tu stai dicendo una cosa, ho visto quella foto del ragazzo ammazzato. No, non ho visto la foto, ne parlavano. Tu che era un cacciatore. Non è un pescatore, è un pescatore. È un cacciatore. E il primo pensiero che hai avuto qual è stato? È stato un cacciatore in meno. Ma tu sei un coglione, te lo posso dire? Ah, sì, grazie. Sei no, un coglione professionale, non un coglione. Sei un imbecille, un criminale. Ma che cosa devi fare? No, vai no, a pre- no, no, ne io so, sono pentiti, normale. Pentiti. Se sei credente, vai in un confessionale, no, vai da un prete no, se sei credente. No, vai a curarti. Non sei credente? Benissimo. Sono una persona molto normale. No, non sei normale, ti posso assicurare, non sei normale. Io le dico, se uno va a caccia che uccide, adesso ci sono i nidi. Ma lascia perdere a calcio. Questo, va a casa che uccide, tu puoi pensare quello che vuoi. Questo ragazzo qui è stato ucciso. Il primo ma io sono d'accordo, lì è stata una boiata. Ma non è che è stata una boiata, ma non c'è manco bisogno. Ma ci manca pure che tu non sei d'accordo. Che tu sei d'accordo con l'uccisione. Però se lui. Ma hai pensato uno di meno, l'hai detto. L'ho detto. Posso avere le mie opinioni? Ma non sono opinioni, è un'opinione, non è un'opinione questa roba qua, è una roba da una porcata tremenda, questa è stata ammazzata. Io d'estate quando sento. Ma qual è il problema? Ogni sparo gli mando un eccedente. E se quell'incidente gli arriva, vede che qualcuno gli arriva. Sì. L'incidente che ci mando. Scusa, non ho capito. Dunque, il fatto che questo ragazzo sia morto, siccome è un pescatore. Io non voglio parlare di questo ragazzo. Ma tu di quello hai detto. Dire. Appena ho sentito la notizia, hanno detto che era pure un pescatore, ho pensato uno di meno. Questo signore che parla è un pezzo di merda. Lo dico io, citando un amico che mi sta scrivendo in questo momento. Faccio mie le parole di questo amico. Che mi sta scrivendo, questo è un pezzo di merda. Gianni, Fabio, sono d'accordo con tutto quello che dici, ma non mi sembra di vegani, lascia che la gente mangia quello che vuole, lascia che la gente sia è stato massacrato in modo brutale da un gruppo di delinquenti. Cosa c'entra che sia un pescatore? Ma cosa c'entra che è un pescatore? È stato giustiziato in una maniera terribile. Ma non giustiziato, è stato assassinato, Salame. Vabbè, non è uguale per niente. Scusami, qual è il problema se uno pesca? Se uno va a pesca di una roba grossa come quella che è ritratta in quella foto, qual è il problema? I pesci non si possono prendere. Mi dispiace quando vedo gli animali morti che i cacciatori sparano ai fagiani, a tutto quello. Vabbè, che Fabio, vai. Cammina. Non voglio più sentire. Basta, non voglio sentire. Aspetta, ti chiamo dopo, casomai. Fermo. Buonasera, amico Rom. Sono Parenzo. Per lasciarti andare. Dei centri sociali, bruciarli tutti col napalm. Suona una fisarmonica col napalm. Fiamme nel campo rom. Napalm. Tua madre lo diceva, non andare su YouPal. Napalm. La Zanzara. Naturalmente. Arrivo a casa, ovviamente rimango in macchina perché non posso scendere mentre voi stronzi di merda parlate. Mi chiama mia madre e mi fa: Alessà, ma che sei venuto a casa? Dove stai? Sì mamma, sto in macchina ad ascoltare la Zanzara. Appena fa la pubblicità scendo. Ma tu sei scema, Alessà. Beh, amico mio. Teste di cazzo, oggi aggeggiavo sul telefono in macchina per sentire il podcast della Zanzara di ieri e mi sono beccato 90 euro di multa da quei bastardi della polizia francese. Ora me li pagate voi, il novantello me lo mandi te, Parenzo, li voglio da te. Cruciani, veramente non ti capisco, come cazzo fai a dire che quella di Parenzo è una parodia e va bene quando Parenzo stesso critica te quando dici tu essere muslim, anche la tua è una parodia, e lì Parenzo però interviene e dice perché gli dici così, è la stessa cosa, come cazzo fai a non capire, Cruciani? Munnez, parlate di Pucciac. Allora ragazzi, io vorrei tornare su questo signore che credo sia ancora in linea, non so se persevera, sì, Fabio da Forlì, il quale ha appena detto, pochi minuti fa, ma ci sono molte persone che si collegano con noi adesso, caro Parenzo, sì. E voglio segnalare alle 19:19. Intanto è arrivato un ospite che si sta, che comunque è dietro le quinte, in regia, sì, sta rimorchiandosi, sì, mezza redazione. Come al solito. Allora, io dico una cosa, Fabio da Forlì ha appena detto, il primo pensiero che mi è venuto in testa, sì, essendo quel signore un cacciatore, cioè il ragazzo Emanuele, quello di Alatri, il primo pensiero che mi è venuto in testa è stato uno di meno. Ora voglio dire, Fabio, pentiti. Mettiti in ginocchio e pentiti, ti prego. Fallo, Fabio, fallo per me. Mettiti in ginocchio e pentiti. Posso parlare? Sì, parla. Allora, quando ancora lo dice proprio il primo momento che l'avevano che era stato ucciso, che ancora non si sapeva che era stato. Non mi interessa come è stato ucciso. Perché hai pensato? Perché hai pensato uno di meno? Spiegami perché. Perché io quando un cacciatore sento che un cacciatore si spara e si muore, sono contento. Tutto lì. A parte che sei un coglione pure in quel pure. Ma questo qua era uno che andava. Ma qual è il problema del pesce? Del pesce pescato? No, il pesce. Quello ha sempre... è un cacciatore, io non ho visto la federazione. Ma visto è un cacciatore pure, anche un cacciatore, era sì. Un cacciatore, il pesce non l'ho visto. Era anche, comunque era anche un cacciatore, era anche un cacciatore. Sì, era un cacciatore. E allora uno di meno, uno di meno. Io ero dal dentista. Uno di meno, ma non me ne frega niente, che c'hai? Ma è matto, ma chi se ne frega? Posso dire una cosa? Dimmi. Sì. E poi chiudo. Ma le hanno trapanato il cervello a lei però, non la carie. In mezzo alla strada, ho bloccato la strada perché ho lasciato passare un gatto nero e quelli di dietro mi hanno suonato. Ma ho detto state calmi, perché quel gatto voleva passare attraverso la strada. Ma quello l'hai fatto per il comodo, quello l'hai fatto perché pensi che porti sfiga. Che c'entra? Ah, per quello dici. Coglione, no. Cioè, vabbè, già, ciao Fabio, ciao Giovanni D'Ancona. Ma scusi, lei è un disturbato? Sì, appunto. Giovanni D'Ancona, vai, Giovanni. Eccomi qua, Cruciani, vatti a fare la doccia, va intanto, quel tempo si sente anche dal telefono. Ma non dire cazzate, imbecille. Ascoltami. È arrivato il cretino qua, che tanfo. Sì, senti, senti la puzza, dai, senti. Lo sento, dai, scherzo. Voglio intervenire anch'io sull'omicidio di Alatri, per dire cose più serie di quell'animale imbecille che mi ha preceduto un momento fa. Allora, io faccio l'avvocato. Ho sentito stamattina al vostro GR che... alcuni hanno addirittura minacciato certi miei colleghi che sono stati costretti a lasciare la difesa. Sì, no, loro dicono, in realtà uno di questi avvocati dice che non è stato per quello che ha lasciato la difesa di... Uno lo dice, ma in realtà un altro dice una cosa molto diversa. Vabbè, ma sono follie, sono tutte follie. Follie. Uno mi ha scritto, uno mi ha scritto adesso, dice sono una persona seria, eccetera, eccetera, però spero che questi qua in carcere, quelli che sono che verranno riconosciuti come gli autori materiali dell'omicidio di questo ragazzo, spero che soffrano le pene dell'inferno in carcere e che vengano seviziati in galera. Ma me l'ha scritto in maniera molto semplice. No, ma un tizio, un ascoltatore me l'ha scritto in maniera molto semplice, Cruciani, molto tranquilla. Non ce l'ho né con te né con Parenzo, queste persone che stimo. Però voi giornalisti, alcuni di voi, e faccio nome e cognomi, di Travaglio. Ma che c'entra Travaglio? Che cazzo c'entra? Di Gomez. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? La responsabilità morale di questi fatti. Ma non dire cazzate. Ma dai, detto questo, ma che bevuto, ma bevuto già. Caiolo ha rotto i coglioni. Ma non c'entra nulla, ma che c'entra? Ma non c'entra. Come? Ma non c'entra una sega, dai, come? Su. Ma va, vai, Simone Dall'Aquila, non dire cazzate. Simone Dall'Aquila, ciao. Simone. Io volevo parlare di Taglia la Tela, solo che adesso No, ma dimmi di Taglia la Tela, dimmi. Allora, è intervenuta anche la Bindi sull'affermazione del signore Taglialatela, che lo ricordo, è un deputato della commissione antimafia, tifoso del Napoli, il quale ha detto che Juve è merda, si può dire, eccetera, eccetera. Altre cose, anche che la Juve è pagata che paga gli arbitri attraverso una società, ma si è dimostrato che è una bufala colossale, che la Juve ruba gli scudetti, vabbè, la solita tiritera anti-juventina. Simone, allora che vuoi dire su questo? Rinuncia all'immunità parlamentare. Un arbitro di calcio della sezione dell'Aquila, sì. E penso che l'arbitro è la parte più vera del calcio. Vabbè, ma questo, le persone più pulite che ci sono, soprattutto nelle massime categorie, sono gli arbitri. Può essere, può Quindi essere. Dunque? È davvero grave che un parlamentare, credo. Sì, certo, parlamentare di Fratelli d'Italia, certo. Di così basso profilo. Purtroppo noi viviamo in una situazione, soprattutto quella politica italiana, dove a comandare questa nazione ci sono queste persone qui. Vabbè, hai fatto questa dichiarazione, che deve? La dichiarazione d'arbitro dicendo che gli arbitri sono la parte più pulita. È veramente ridicolo che certe persone parlano, cioè hanno il diritto di avere potere su altre persone come gli arbitri di calcio. Ma per parlare degli arbitri, non ha nessun potere sugli arbitri di calcio questo qua, non ti preoccupare. Si permette ad offendere migliaia di persone che tutte le domeniche scendono in campo e permettono a tanti appassionati di guardare una partita di calcio. No, ma tu hai ragione su questo. Ha offeso gli arbitri dicendo che gli arbitri sono pagati attraverso quella società, cosa che si è dimostrata una bufala. Ha offeso tutti gli arbitri italiani. Ma hai ragione su questo, perfettamente. Poi ti dico una cosa in più. L'ignoranza è grave, proprio l'ignoranza. Ma primo, perché questa storia qua è una bufala colossale. Calcola che io sono interista e veramente ma secondo me gli altri è una bugia, non c'è neanche da discutere, non c'è, certo, una diffamazione bella e buona, basta, appunto, è una bugia, quindi basta. Dico, perché tante migliaia di persone stanno sentendo questa trasmissione. Gli arbitri sono la parte più pulita del calcio. Vabbè, d'accordo, l'hai già detto questo, non è questo adesso la cosa importante, concludo dicendo proprio questo, che la gente continua a parlare male dell'arbitro, quando invece nel calcio è tutto marcio in certe categorie. Simone, ciao. Abbiamo capito, ciao. Nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. Piccolo sondaggio ad Alatri. Piccolo sondaggio ad Alatri. Lo abbiamo realizzato anche noi. Col nostro istituto AIDS, no? Grande istituto della zanzara. Sì. Sentiamo. Buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi. Come sa, un ventenne ad Alatri è stato massacrato da un branco di violenti. Secondo lei, cosa meritano i colpevoli? Peggio di quello che hanno fatto a quelli. E quindi? Ma niente, li devono ammazzare e basta. Fare a loro ciò che è stato fatto al ragazzo? Ma forse la pena capitale va bene. Fare quello che hanno fatto è ignobile per la seconda volta. Secondo lei cosa meritano questi colpevoli? Lei cosa farebbe loro? Ammazzarli proprio, basta, quello farei. A pezzettini, guarda, mi dispiace arrivare a questo punto a pezzettini, perché guarda, non se ne può. Meriterebbero solo la stessa morte di quel ragazzo. Lasciamo perdere quello che vorrei io, non è importante. Lei è favorevole alla pena capitale? Sì, perché queste persone che hanno fatto questo è una cosa barbara, cioè non stai a menare un sasso a un essere quindi umano. Quindi pena capitale? Sedia elettrica? Per regola sì, a queste persone sì, non c'è altro. Perché non è che cambiano adesso queste persone, purtroppo. Sarebbe giustizia completa, perché loro hanno fatto questo e altrettanto meritano, no? Pena capitale o punizioni fisiche? No, fisicamente sarebbe un po' stupido e diventeresti come loro. Quindi a questo punto direi più l'ergastolo. Meritano quello che loro hanno fatto a sto ragazzo, lo meritano. Quindi essere massacrati di botte e morire? Sì. Oltre a massacrarle di botte, ci sputavano pure addosso, schifosi. Io guardi, io non sono capace nemmeno a fare del male, ma questi, guarda, glielo farei, perché sono persone malate, secondo me. Bah. Ragazzi, cioè, la gente ha il primo impulso è quello di massacrare questi qua, come questi hanno massacrato quel ragazzo. Renato da Genova, vai, Renato. Dimmi, Renato. Nella puntata di lunedì avete sentito, diciamo, le opere di una signorina che fa la mistress. Alla fine della sua telefonata faceva cenno. Grande mistress, spettacolare mistress, accenno a una speciale colazione. La colazione con la merda, certo. La colazione che offriva ai suoi clienti. Ma naturalmente. Giustamente, naturalmente. Ma se uno ha queste perversioni, si potrà fare pagare per questo oppure no? Sì, ho capito, però non è normale. Ma sei tu a giudicare cosa è normale? Ma no, cioè, non però mi dirà... dai, ma naturalmente, ma come si vuole dire? Dai, come cioè, tu dici non posso considerare normale uno che per colazione si fa portare la merda e tra l'altro paga pure per farsela portare. Esatto, ma non riesco, ma chiede qualunque psichiatra, psicanalista. Vabbè Renato, allora che vuoi dire? E quindi voglio dire questo, come hai detto tu, nel massimo della libertà, vorrei sapere come mai tu... Sì. Ti scandalizzi così tanto che un magistrato nel suo privato paga un biglietto per andare allo stadio. Magistrato? Quale magistrato? Scusa. Non un magistrato, l'onorevole che lavora. Taglia la tela. E nel suo privato allo stadio non è il suo privato, non è che quello si distacca dal suo ruolo, ma che cazzo dici, ma non è così, uno che fa il politico fa il politico da tanti anni, che è rappresentante della commissione antimafia, secondo te un privato cittadino quando va allo stadio a dire Juve merda, ma di che parli, ma di cosa stai parlando, ma dici una follia inaudita, quel ruolo. Guarda, io ho criticato allo stesso modo, ho criticato a parte che non me ne frega niente, a parte che non, ma non c'entra niente, sono due cose diverse, ma sono due, io pure dico merda ogni tre secondi. secondi, a parte che non è vero, ogni tanto dico una parola merda. È un microfono. Ma non c'entra nulla, ma quello è un deputato, ha un ruolo istituzionale, non può fare l'ultras come qualunque ultras della curva. Ma che ruolo istituzionale? Mica questa trasmissione ancora non è sotto l'altro patrocinio del Presidente della Repubblica. Juve merda, ma se uno dice Juve merda è un ultras? Ma no, l'ha detto lui, ma l'ha detto lui, sono un ultra. Esatto, ma non è un, vabbè, ma ragazzi, ultra bisogna avere anche fermola, fermo. Condizione della parola. Fermo, fermo. Lasciati uno parenzo e alla defecazio non ci penso. Ma metto a pensare un po' parenzo e mi metto a cagare. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il lavoro. La Zanzara. Buongiorno caro amico Rom, sono Parenzo. Ma ucciditi, ma fate detonare in piazza. Fati detonare, imbecille. Parenzo, ti ho appena visto a bighellonare seduto a un tavolino in bar dietro la stazione Termini. Mamma mia, quanto sei cesso. Però puoi piacere. Abbiamo cercato su Google la moglie di Parenzo. Bella figa. Vabbè ragazzi, vi avevo detto di non mettere questa roba, sì, cioè, Parenzo, sì, ma sono i soliti, sono i soliti, ma sono i soliti che ti vogliono smertucciare. Sei il solito terrorista, comunque ma... è vero, oggi pomeriggio sì, che è il solito criminale, il black block della radio sei tu, sei il black block della radio. Sì, comunque è vero, la persona che mi ha visto, non so chi sia quel miserabile nulla facente, ero alle 17 sotto il caffè che c'è qui sotto la radio Piazza dell'Indipendenza a prendere un caffè con un amico. Non c'è niente di male, non è un crimine insomma, no? No, ecco appunto, ero lì. Nulla facendo, sei tu cornuto che non ti sei neanche fermato a farti fare un selfie con me, cornuto che non sei altro. Allora, parlavamo prima dell'onorevole Taglia la tela di Fratelli d'Italia, sì, che ha fatto quell'esternazione, è stato rimproverato anche dalla signora Bindi. Poi te lo presenterò, c'è un grande ospite che in questi 10 minuti che è qui ha provato a rimorchiarsi in mezza redazione della Radio 24. Vabbè, ma non mi stupisce, io so chi è, ma non mi stupisce questa cosa qua, fa anche bene. E fa anche bene. Ha molestato al tele, adesso poco fa ha chiamato, stava parlando con me nell'interfono Laura Marchesi, che è una delle nostre ottime. Ha provato a molestare anche Osama Marchesi. Sì, ha detto subito. Come che bella voce che hai, cara, ci pare che è incinta. Vabbè, a me che cazzo me ne frega tanto. Quindi, cioè, tanto per dirti l'ambiente che qui si però crea, io subito. Dico una cosa, il signor Taglia la tela è stato ribattezzato anche dalla rete, dalla famosa rete Taglia la corda. Perché in realtà è stato. No, perché è stato. Hanno fatto una piccola indagine. Cioè, in realtà non una piccola indagine, basta andare a vedere su internet in 2 secondi. Spunta fuori che il signor Taglia la tela, detto anche Taglia la corda, ha partecipato da questi signori, ha partecipato al 28,79% delle. E delle sedute della Camera o del Senato, dov'è, non mi ricordo, che era la Camera, eccetera. Dunque è un assenteista cronico, quello che risulta è questo. E sembra che anche abbia partecipato pochissimo alle stesse sedute dell'antimafia. Dell'antimafia. Pure. Allora, io andrei subito a sentire, prima ce lo siamo dimenticato, nei giorni scorsi il grande duello tra signor Giletti e signor Pomicino. Bellissimo. Pomicino bellissimo, come rappresentante della politica che dice che i vitalizi sono giusti. Signor Giletti che, come sapete, attacca moltissimo i vitalizi, sentite. Il dottor Giletti disse, però, a Domenico Radin che gli italiani pagavano per da 20 anni la mia scorta. Naturalmente chiamai la direzione della RAI, è vero, Giletti non ebbe le cosiddette i cosiddetti, è vero, per smentire una cosa che era falsa, la smentì Mara Venier. Questo è Giletti che guadagna 42.000 euro al mese per far Domenica Inn. Allora, un attimo, allora, Giletti non adesso, fa Domenica Inn, parliamo. Io ho la parola, tu me l'hai data e io la mantengo. No, se non devo parlare, mi taccio e basta. Assolutamente. Lei dovrebbe invece indicare che un conduttore che invita un ospite e all'ospite gli butta in faccia il suo libro che ha scritto, un ospite che era un parlamentare antico, di un grande avversario della Democrazia Cristiana, questo non è compito del conduttore. E mi limito qui perché sono un democratico cristiano, allora, e quindi sono garbato. Torniamo adesso al vitalizio. Allora. capisco che dire la verità fa male. No, capisco che dire la verità fa male, onorevole. Capisco che fa male. Ma quale verità? Capisco, ma che, verità? Dire, io capisco che dire la verità fa male. Ma infatti, se per lei è normale pigliare 5 miliardi di tangente, va bene, va benissimo. Allora, come finanziamento illecito ai partiti. Esatto, infatti, benissimo, e si sono tutti trovati. Grazie. Mio caro, se vuole anche fare anche no, questo tipo di discorso, quello che ho detto a Di Pietro, lo dirò a lei. Sì, vogliamo sì, fare il erano, rapporto era, dei nostri era, patrimoni. Era regolare fare questo? No, no, basta, infatti ho pagato. Basta. Infatti ho pagato. Ebbene, infatti ho pagato. Bello, Giletti, che gli riprovera. No, vediamo il la clip su Giletti. È mio, io non ho difeso, non faccio politico. No, no, lei fa, io non faccio politico. No, no, lei no, fa no, molta più faccio politico. Lei fa molta più politica. Vi chiedo una cortesia personale di evitare litigi e toni troppo alti. Quindi. Vediamo la clip su Massimo Giletti. Allora, ragazzi, Andrea dalla provincia di Cuneo, vai. Andrea, vai, Andrea dalla provincia di Cuneo. Salve, ragazzi, salve a tutti quanti. Dimmi. Volevo parlarvi di sta ragazza? Che ha, la ragazza che ha scritto quel post. Questa Sara Castellini, perché... Emanuele è stato ucciso, il pesce anche, sì. Esatto. La conosci? La conosco di vista, abitiamo praticamente nella stessa città. Volevo dirvi che... Niente, sta ragazza probabilmente ha dei problemi di testa. Questo non c'è dubbio. Questo è in dubbio. Di sicuro non è la prima volta che fa questi gesti. Vi ricordo... quella specie di alluvione che c'è stata a novembre. Sì, che cosa lei, ha scritto all'epoca? Sbaglio, si trovava a Torino, sì. Ha messo un bel post: piuttosto che sopprimere i treni, dovreste sopprimere chi mangia animali. Oppure ce ne sono altre, gente che è stata addirittura minacciata da lei e dai suoi amici. Tutti discorsi che veramente fanno pena, addirittura sì, ma ne ho raccolti alcuni. Si narra che i suoi genitori non possono mangiare carne quando lei è in casa, perché altrimenti succede un degenero. Questa qua è la situazione che... Ma tu abiti proprio vicino a lei? Sì, abito nella stessa città. Che è un piccolo paese, no? Sì, 20.000 abitanti, non è piccolissimo, però... Ah, no, beh. Uno si fa i cazzi dell'altro, via. Sì, ma tu conosci esattamente la via? No, non conosco la via. No, perché insomma, vabbè. Ciao Andrea, ciao. Ciao, buona serata. Aspetta, Sì. Aspetta. Tanto accendo l'aria condizionata. Pronto? Sara? Pronto? Sara? No, avete sbagliato numero. Bah. Sara. È sicura? No, questo è il telefono di mio padre, veramente. Sara Castellino? No, avete sbagliato numero. Siamo sicuri? Ma ci pensi un attimo. Ci pensi un attimo, ci rifletta bene. Ci rifletti. Ma è con noi, fermi tutti. Uno dei più grandi chef italiani, Gianfranco. Gianfranco Vissani, buonasera. Vissani, come stai? Ciao Giuseppe, come stai? Bene, tu incazzato, bene? Come andiamo? Bene. Perché sei incazzato? Non ho capito. Perché hai detto Cannavacciolo invece no, di... No, sì, mi venga parecchio a me. Però ti voglio dire, no, ascoltami, io penso, la signora era... Siamo in diretta, eh? Sì, la signora aveva dei problemi. Ma no, manco pochi. E anche, io penso che anche tra Cirino Pomicino e Giletti... È una guerra. Ma sai, Giletti deve sempre accontentare, no? Con chi? Una scarpa, deve stare con una scarpa su due stanze. Che bordi? Staffe, sì. Ma che bordi? Non ho capito. Giletti è una persona... tira fuori le cose così che forse quando c'era Pomicino... Giletti? Te? Sì, ma perché si chiama Arena, infatti si chiama Domenica Inn. Però insomma, combatte una storia senza Cioè, senza populista, fine. Stai dicendo che è un populista? No, un populista, non voglio dire questo, ma Giletti... Una ruffa popolo, stai dicendo. Beh, sicuramente sa quello che vuole dalla vita per mantenere a galla un pezzo di storia, ma lui non conosce. Cioè, di storia, cioè vuole per mantenere il suo stipendio, ti dice che deve arruffare il popolo, deve fare il del demagogo, questo vuoi dire? No, Gianfra, parla chiaro. No, però penso per fare tanti numeri come fa il 27% di ascolto... Deve fare casino. Devi far casino. Devi sobillare la gente. E come voi. Vabbè, bravo, ma no, adesso lasciamo perdere la radio, è un'altra cosa. Devi far casino per sobillare la gente, tu dici. Devi far sentire la pancia delle persone. Devi incazzare con i politici. Bravissimo. Scusa, io quando andavo in televisione, specialmente a Uno Mattina, uno mi disse a me, intelligentemente, avevo 8-9 ragazze che dovevano fare gara gastronomica. Sempre donne. La colonna portante. Ma non hai mai avuto i grandi amanti della figa in Italia, il signor Vissani. Ma non hai mai avuto l'attrazione per un uomo? Mai per un uomo? Ma sei matto? A me hanno detto di sì, però. A me hanno detto, guarda, una volta Vissani. No, cioè, no, niente. No, no, no. Niente. Mai. No, no, no, assolutamente. Ma non una ho cosa, avuto queste debolezze. Scusa, una cosa a tre non la faresti mai? Una cosa a tre con un uomo? Non ci pensa proprio. No, tre donne e un uomo? No, non ci pensa proprio. Ma l'hai mai fatto tre donne tu? Niente. Cioè, il famoso mucchio, quello che si chiama. No, il mucchio, il mucchio selvaggio. L'hai mai fatto? Non ci penso solo neanche. Donne e un uomo, e tu? 1-1. Senti, e poi si lavora meglio. Come si lavora? Perché se tu dici in one to one si lavora meglio, dici, sennò uno si distrae troppo con una bravo. Se ci sono due o tre persone, se ci sono due o tre persone. 1-1. Vabbè, ma che stavi dicendo di queste donne che stanno lì alla trasmissione? Non ho capito. Sì. No, no, io ti voglio dire che Giletti deve fare numeri e numeri per dare numeri, perché sennò. Ah, va bene. Senti, tu hai visto questi vegani scatenati pure contro Emanuele, il ragazzo ammazzato ad Alatri? Ma che ne pensi? Ma si può arrivare fino a questo punto? Diciamo una cosa definitiva su questi vegani, ma questi sono malati di mente. Ascolta, sono tu. A parte che non ti fanno parlare, questo qui mi fa incazzare la cosa. Cioè? Non ti fanno parlare. Ah, tu sei uno che ammazza gli animali, non ti fanno parlare. Io ieri sono violenti. Io stavo alla radio, io ho uno spazio su Radio Roma Capitale, tutte le mattine alle 11. Vabbè, ti pagano però almeno. E me sì, ci mancherebbe. No, perché? Beh, perché tu sei sempre d'occhio. Vabbè, allora? E allora praticamente c'era una signora vegana e mi dava ragione. Cioè, e dico, basta con questi vegani, perché veramente a Giulia, Giulia Innocenzi, gliel'abbiamo detto proprio, cioè loro non ti fanno parlare, sono violenti, sono violenti. Cioè, uno ha parlato che il veganesimo era prima di Cristo. Cioè, ma devo andare a fanculo? Mandali a fare in culo. Cioè, da roba da mandarli a fare in culo sempre. Dai, su, dicono delle cazzate, delle bugie, delle falsità. Attenzione, sono 1.800.000 persone in Italia. Ma chi l'ha detto? Rischiamo di essere invasi dai vegani, dici? Rischiamo la dittatura vegana, dici? No, però, ascolta, bisogna stare attenti. I vegetariani e i vegani. Ma quello lo sappiamo. Ma lo so, ma loro fanno tutta nel banfascio. Figurati che il maestro è qui, si è presentato qui con un giubbettino in pelle pazzesco, anni 70, molto per tutta pelle, no? Carne. A proposito, scusa, ma quanto ti piace trombare? Ascolta, queste sono domande così in radio. Certo, assolutamente. Ti piace moltissimo, ma no? Questi anni 70. Ma ti piace moltissimo trombare? Cioè, è una cosa, sei una passione. Per esempio, ti piace molto il sesso anale? Scusami, il sesso anale. Non ho capito l'ultima parola. Il sesso anale ti piace molto? Non ho capito l'ultima parola. Dai, Gioffra, non fare cose. Ti piace o no il sesso anale? Ti piace o no il sesso anale? Sei appassionato del genere, però. Sì, io sì. No, adesso non dire cazzate, io sono mi piace fare l'amore e basta. Non ti piace, però il sesso anale ti piace molto anche, no? Cioè, ascolta. Quando si parla in maniera spontanea, si deve dire sì, a me mi piace il culo. È un'espressione bella, genuina, alla Vissani, mi piace. Tu m'hai chiamato il gourmet della fica. Beh, sì, ma quello mi pare abbastanza evidente. Bellissimo, però ti voglio dire, anche tu non scherzi, Giuseppe. Ah, no, ma quello io infatti lo riconosco, piace, a me tu dovresti dire sì, a me piace il sesso anale. Ormai è una grande discussione. Ma non è così appassionata. Ascoltami, è mai sorpassato, dai, quelle cose lì. E che c'è di più? Per esempio, ma c'è che c'è? Non so, il ciabottino, capito? Che è ciabottino? Non lo conosci, entro posto. Che è ciabottino? È una porcheria. Ma no, me. Ma questo è stupendo. Temo che è ciabottino? Beh, sono appassionato adesso. Il ciabottino. Temo sia una grande porcheria. Una cosa vertiginosa. Cioè, cosa. Che cos'è il ciabottino? Ma che tutti vorrebbero fare. Ma per esempio, il cunilingus ti piace? Bellissimo quello. Beh. Cioè, la tua cosa preferita che cos'è? Cioè, no, ma ha detto che non sa che cos'è, ma è il ciabottino. No, ma il ciabottino non esiste, Giuseppe, dai. Il cunilingus non sa cos'è lui, ma non sai cos'è il cunilingus. No, in latino non lo sa. No, cioè, ma scusami. Non sai cos'è il cunilingus. No, non importa, l'hanno capito lo stesso. Scusa, da casa. Tu lo sai lo scandalo che hanno fatto delle canne in Brasile, sì? Delle canne in Brasile? No, vuol dire che scandalo canne. Hanno fatto uno scandalo impressionante, lo sai che hanno aspetta dato un attimo, 30 secondi e torniamo, fermo. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La zanzara. Allora, in studio con Parenzo, Gianfranco Vissani. Gianfranco, sì. Che cazzo è sto ciabottino? Che mi sembra una ricetta dell'Abruzzo. Ma che cazzo è ciabottino? No, che no, cos'è? In Abruzzo c'è cacio e uva. No, ma ciabottino, cos'è ciabottino? Ciabottino è una mia legge che fa benissimo. E che, come funziona il ciabottino? No, non te lo dico. E dai, dimmelo. Non ti sforzare, non te lo dico. Dai, ti volevo su. Dire solamente, cosa? L'hai visto lo scandalo delle canne in Brasile? Qual è lo scandalo delle canne? Non ho visto niente. Hanno immesso sul mercato carne avariate. Sì. Facendo delle mancette come sì. Tutti quanti sì. Succede sì. E l'hanno messo in circolazione tutto vabbè, il mondo. Allora una porcheria pazzesca. Beh, una porcheria pazzesca, carne avariata. Sei venuto qui per dirci questo, giusto? No, però, no, no, però ma è giusto, che ci frega a noi, dai, insomma, che cazzo ce frega niente. Vai con una barzelletta, vai con una barzelletta. Lo... Ascoltami, tu mi porti una ragazza e te lo farò vedere. Ah, il ciabottino. Dai, su, sì. Ma che cos'è? Che è una cosa strana, cos'è sto ciabottino? È ciabottino solamente in Umbria, noi siamo arcaici, capito? Ma è una roba, Parenzo sì. Te l'ha spiegato, Davide, dopo no, lo dici no, tu. No, ho capito bene che cos'è il ciabottino. Senti, guarda, ma tu sei, i ristoranti cinesi ti fanno schifo, Gianfranco? No. No. Giapponesi? No. Neanche quello, perché io eravamo con Paolo Brosio in Cina e mangiamo delle larve. Brosio. Il cane, anche hai mangiato il cane. Il cane. L'hai mangiato il cane? Il cane, le larve, le cavallette, i scorpioni. Cioè, hai mangiato il cane? Tu hai mangiato il cane? Fa. Hai sì, mangiato sì. Il cane? Lo com'era? Cucineresti il cane? No, però te lo danno come specialità a loro. Ma com'era sto cane? Era dolce. Era dolce, sì, lo so, era dolce. Anch'io l'ho mangiato. Ascoltami, il cane. Ma lo faresti il cane tu? Lo mangeresti? Cioè, lo cucineresti? Anche la volpe, mio padre mi faceva mangiare la volpe. Dai. La volpe non si mangia, l'istrice, la volpe, e che ti posso dire, tutta questa roba, per esempio lo scorpione, non come le formiche, falle mangiare, chi le vuole se le mangia. Ma i gatti le hai mai mangiati, i gatti? No. Ma che ne so io, magari le hai mangiati i gatti? Che ti so ma io? È un istrice, dai, è come un istrice. Senti, se qualcuno entra dentro casa tua, un ladro, tu gli spari? Oh. È una domanda, lo so, ho capito la domanda. È certo, una domanda molto difficile. Non è difficile, questa, ma è semplice. Se c'è un'arma, sparo o non sparo. Se uno pensa, quel momento vado in galera, no? Ma lascia perdere, tu la gente è giusto che si armi o no? Non lo so, è non, molto... lo sa, non lo sai, non vuoi rispondere. No, ascoltami, no, che mollicone che ti dico. È chiaro che se entro in casa e mi fanno problemi, io devo. Ti difendi? Mi devo difendere. Non hai il porto adesso, d'armi, no? Che, no. Adesso no, una pistola, ma una sì. Mazzata, che ne so. Dunque, quelli che sparano li capisci, quelli che sparano? Quelli che sparano sì, perché è un momento di rabbia, un momento paura. Di paura. Senti, ma dai. Quanto costano le tue scarpe rosse? Addirittura che gratis, perché non me le fanno pagare. È un artigiano che gliele regala. È un artigiano, e poi è per fare pubblicità. Per fare no, pubblicità. È Picone di Montecatini, è bravissimo. Ma adesso andiamo a fare marchetta a Picone. Sei scemo, sei. Senti, ma io non ho capito. Ma uno come, una chiesto, cosa come però... quella di Cannavacciuolo, lo faresti te, signor Cannavacciuolo, che fa cucine da incubo? Signor Cannavacciuolo, sei un po' invidioso, il signor Cannavacciuolo, no? No, è un bravo ragazzo. Lui, però, te voglio dire, ascoltami, dico, guarda che se cucine da incubo. Dopo tre giorni torna tutto normale. Cioè? Mi sembra un film. Cioè, spiegami. No, mi sembra tutto normale. È cioè, tutta ragazzata, dice, tutta la finta. Non lo so, ragazzi, ma è tutto, i prodotti. Noi che, vedi, noi ci inventiamo cioè, sempre. Che vuol dire che torna tutto cazzate. Normale? Non ho capito. Cioè, lui dice, non riesce a rimetterle in sesto veramente. Ma no, dicendo. Ma non è possibile. Uno che, cioè, ragazzi, se la Titanic... Ti ricordi la nave che andava sì. A picco? Chi sì. La poteva salvare? Titanic. Nessuno, vabbè, Titanic. Nessuno. Quindi se un locale fa schifo, questo dice. Non si può salvare. Ma dunque, cambia il polso, il cuoco. Deve stare il cuoco. Dunque, quel programma è una farsa, diciamo la verità. Quello considera no, una mezza farsa. Adesso dai. Non vai. Ma dai, dillo, lo considera una mezza farsa, dai. È una finzione. È una finzione, dai. È una cieca, Ma guarda. Perché ci sono tanti chef uomini e non donne? Prima ma non è vero, guarda, ascoltami, a proposito. Vero, questa ma, domanda ma dai, no ma protagonisti qual è la miglior chef forza, donna? Dimmi perché, una chef ascolta, donna se tu vai in America e su queste cucine a vista vista, a parte che le cuoche americane sono di una, sono delle fighe pazzesche, dici. È vero, mamma, ma tu hai mai, ma fatto sesso, hai mai fatto sesso in cucina? Sesso in cucina l'hai fatto qualche volta? Come no, sulle balle del grano. Sulle balle del grano, che c'entra, no, la cucina con le balle del cucina, grano? Cucina, no, rompe, no, sono una cucina normale. Cioè, in cucina hai fatto sesso spesso? Sì, sì, sì, sì, sì. Ma dove esattamente? Dove? Sulle balle del grano. Ma dove stanno le balle del grano? Le in cucina? Balle del grano vicino al forno dove c'è la farina. Ma no? Se mai, qualcuno ti è mai saltato addosso per dire voglio lavorare con te? Sì, sì, sì, sì, sì, voglio... sì, sì. E tu hai accettato, te la sei trombata? No, adesso non esagerare. Trombata, trombata è una cosa troppo brutta. Ma che fa sempre brutto? L'amore, perché il maestro fa sempre l'amore. Fermo lì, fermo. Vado a fare la pipì un secondo. Ma io che pipì un secondo? Tornare, cioè, scusa, puoi andare a reggere un attimo il pisello di Parenzo? No, ma il pisello di Parenzo? Ma dai, è piccolo piccolo. Ma cosa dice? 19.56 diffamazione avvenuta fuori di Roma, grazie. 19.56. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Questi cazzi. La Zanzara. Cruciani, sto passando per San Fior e al grido di Lucia Akbar adesso vado in municipio a farmi esplodere la multa. Lucia, no! Lucia Akbar! 52 anni, sono assieme a mia moglie da 35, facciamo ancora sesso alla grande. Non c'è niente di più bello, siamo al top. La mistress però ha proposto un topic di discussione da non sottovalutare. Io sono sempre del partito che sempre meglio un poco sudata in luogo a troppo profumata. Voi cosa ne dite? Discutiamone, su, eruditemi, eruditemi, eruditemi. Allora, Pisani? Eccomi. Barzelletta finale, vai, vai, vai, vai. Ti devo raccontare una barzelletta? Sì, dammi una barzelletta, sì, dai. Sì, fammi ridere, sì. Però, dai. Sì. Allora, ascoltami. C'erano due coppie. Sì. Due coppie, allora a un certo punto parlano gli uomini e gli dicono, amici, ma scusami cari, ma perché usciamo sempre così due, quattro, sei coppie? Ma facciamo uscire prima le donne e poi usciamo noi. L'altro uomo se lo guarda e dice, ma te sei impazzito? No, no, escono prima le donne, vanno a fare un po' di shopping e poi vanno, si trovano su un piccolo paesino, c'era la sagra delle ciliegie e cominciano a mangiare le ciliegie. Mangiano, mangiano, mangiano, mangiano, le mangiano tante, tante, gli prende il mal di panza che devono andare a fare al bagno proprio. Corrono in questa strada buia, era buio peso, non ci si vedeva. Dai, entriamo qui, corriamo, correvano. Dice noi al cimitero, ma al cimitero io è buio, non ci vengo lì, ma dai che ti frega mica. Entro dentro, svuotano automaticamente. E a un certo punto dice, mi pulisco con le mutande. Con le mutande, ma che sei matta? E quella arruffa la roba a destra a sinistra perché non sapeva come pulirsi. Arrivano a casa e i mariti il giorno dopo dice, ma com'è andata? Mica tanto. Bene, la mia è arrivata a casa senza mutande. La tua? E la mia ha alzato l'insulino, c'aveva due chiappette dorate, gli usciva fuori mezzo nastro dal sedere e c'era scritto, gli amici del bar non ti scorderanno mai. Scusa. Scusa Gianfranco, io come ride, ma non è adatta a questa fascia oraria. Ne ha un'altra, maestro, mi sa. No, più non, brevico, no, non c'è un'altra, no, non sì, c'è un'altra, no, così qua ne ti devo raccontare, non lo so, te l'ho detta una potente. Un'altra mia, così, regalaci un'altra perla, maestro. Un'altra perla. Un'altra perla, perla, vai, vai con un'altra perla, vai, veloce, no, adesso non mi viene in mente, ci ho pensato tutt'oggi quale la potevo dire. Un fedele ascoltatore dice ammazza che stronzata, vai, vai a votare le primarie del PD o no? Vai a votare le primarie del PD o no? Sì, sì, vado. Che voti? Orlando? Renzi? Non lo so, non lo so. Come non lo so? Orlando, Orlando. Orlando, ma non lo so, e poi dice Orlando. So. Voto Orlando, ecco, sì, la dichiarazione, no, di Pisani, ecco, voto Orlando, ucciso alle primarie. Orlando, ma perché ucciso, no, Orlando? Non l'ho capito. Dire, voto Orlando, perché voti Orlando? Sì. Non lo sai. No, come non lo sai? Perché non lo sai? Perché so? Penso che sia... In politica ci vogliono persone sagge. Sagge. Sì. Sagge. Come te, diciamo, come Pisani, ci vogliono persone sagge. Come... No, che cazzo è sto ciabottino? Mi spieghi che è il ciabottino? Ciabottino, adesso, ciabottino, basta, ciabottino, ciabottino, ciabottino, ciabottino, ciabottino, ciabottino. Ma ciabottino, che vuol dire? Che vuol dire? Ma che, ma, ascolta, è una tua specialità sessuale. Ma insomma, se un uomo ci prova con te, saperla, se un uomo ci prova con te, che fai tu? E no, gli dico grazie caro, ma a me la carne di porco non mi piace. Come di porco? Cosa dici? Perché di porco? Scusi, perché di porco? La carne di porco non mi piace. No, anzi, mi piace solo un'altra carne di porco, no? Un'altra carne di maiale. No. Vabbè, Giafra, ciao, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, dove andiamo, ragazzi? Andiamo a Fabio Bergamo, dai, Fabio. Vai. Pronto? Fabio, dimmi, dimmi. Ciao, Fabio. Frutani. Dimmi, no, dimmi. Volevo solo dirti, ti stupisci quando ti dicono era un cacciatore, gli sta bene che è morto, anche se io non condivido. Ma sei tu che fomenti sta cosa qua. Io ti dico, ci vuole rispetto per gli animali. Dai, non rompere i coglioni, non rompere i coglioni. Quello, ma prova, quello è un pazzo, un deficiente, dai. Quella là è una pazza deficiente, ma dai. La cosa la fomenti tu, la fomenti tu. Ma non fai quelle puttanate, taglio coniglio, ammazzo qua, ammazzo là. Ma io non fomento niente. Cerca di parlare senza auricolare, senza viva voce, altrimenti non capiamo nulla, Fabio. Non capisci proprio nulla. Non è che non Fabio, non hai capito ancora. Fermati e parla senza auricolare, altrimenti non parli. Un'ora che ti sto aspettando, sto qua aspettando. E allora fermati, fermati. Ma se vuoi mi ascolto, non mi fermo, non mi frega, no, se sto lontano perché come te c'è il culo nella panna, figa. Ma chi se ne frega? Ma che no, c'è il culo nella panna? È impazzito tu questo qua. Il culo nella panna, ti sto dicendo. Ma io c'ho il culo sulla sedia, non nella panna. Fermati, metto giù e me lo metterei, ostia. Ma puoi mettere giù, chi se ne frega? Ma metti giù, testa di cazzo. Dai, vai, metti giù, cretino. Davide da Roma, dai, Davide. Pronto? Dimmi Davide, dimmi. Ciao, senti, io volevo dirti che so quello che succede a quelli che vanno in galera per aver fatto un omicidio del genere, mi riferisco all'omicidio da ladri. Cioè che cosa succederà? Allora, sono delle persone che vengono marchiate. Sì. Quando sono di persone che vengono marchiate, sono delle persone che vengono segnalate. Sì. Anche alle autorità giudiziarie. Che vuol dire? Sono delle persone che hanno un trattamento speciale. Cioè, ma tu come fai a saperlo? Non ho vengono capito. Messi, si vede, in un reparto particolare, sottoposti a una sorveglianza. Non ho capito, come fai a saperlo? Sei frequentatore di Patrie Galere? No, guarda, questo non è dato saperlo, sono fatti miei. No, ma evidentemente comunque, sei stato in galera, mica un delitto essere stato in galera, eh? Cioè, sì, è un delitto. Questi sono affari miei, sinceramente. No, quindi, come fai a sapere cosa succederà a quei ragazzi in galera? Sarei stato in galera, basta dirlo, sono stato in galera e so perfettamente cosa succederà a questi qua, dillo direttamente, no? So perfettamente cosa succederà a questi qua, punto. Vabbè, non sei stato in galera, dunque. Fatti miei. Fatti tuoi. Sei stato in galera. Se non rispondi significa che sei stato in galera. Mi pare normale. Va bene, comunque, diamo per scontato che sei stato in galera. Andiamo avanti. Dimmi, dai. Che succede? Sono delle persone che vengono marchiate, vengono praticamente... Oh. Si può dire, vengono inculate, ecco. Se inculano. Se li inculano in galera. Cioè, ma qui si inculano, tu non ho capito. Gli assassini inculano gli assassini. Cioè, non ho capito. A differenza, a seconda dell'assassino che compiono, non ho capito. Gli altri signori per bene che sono in galera si inchiappettano quegli altri. Perché, scusa, una volta io pensavo che fosse per i pedofili, un trattamento riservato ai pedofili, invece? Non è che in galera ci stanno soltanto assassini. No, ma sì, gli assassini, dico i criminali, voglio dire. Comunque, Davide, non ho capito, tu pensi che sia normale questa cosa qui? Dato che evidentemente frequenti o hai frequentato quei posti lì, pensi che sia normale? Ma io penso, allora, innanzitutto diciamo le cose come stanno, è una cosa illecita. Cosa illecita? È questo trattamento che viene dato. Questo mi sembra, credo, questo lo sappiamo. Poi? Però? Oh! È giusto, oh, mi senti? Sì. È giusto. Cioè, ma prima dici che è illecito e poi dici che è giusto? Che vuol dire? Illecito per la legge non vuol dire che non è giusto. Cioè, tu stai dicendo che pur essendo una cosa che non si dovrebbe fare, però tu pensi che sia giusto, perché questi qua meritano un tipo di delitto che hanno meritano commesso. Una punizione per quello che hanno fatto, giusto? Allora, prima avete passato un'intervista che diceva che praticamente prendeva un gruppo di persone random e tutte queste persone dicevano: queste persone vanno fatte a pezzettini, queste sì, assolutamente. Persone vanno ammazzate. Sì, sì, è quello che pensano la maggior parte delle persone che abbiamo sentito. Poi io penso anche che è la prima reazione che uno ha di fronte a una cosa del genere, che alcune persone hanno. Io, per esempio, non ce l'ho questa reazione. Tu hai la stessa reazione? Tu li ammazzeresti con le due mani? Questi qua? Qui voglio arrivare. Arriviamoci però, ammazzarli no, perché non è giusto. Poi io penso che comunque ammazzare una persona sia... Però cosa devono passare questi? Quello che passano realmente. Cioè? Perciò un ergastolo in galera è la loro condanna a vita. E poi? L'inchiappettamento è giusto, dici? Ma non è soltanto inchiappettamento, eh. E che cos'è? Tu hai detto se li inchiappettano, se li inculano. Vengono sodomizzati, malmenati, vengono massacrati. Se tu ci hai fatto caso e se tu hai letto le notizie di stamattina, sì, queste persone attualmente stanno in isolamento, ma non è che stanno in isolamento così, stanno in isolamento per tenerli lontani dagli altri detenuti, non so se hai letto. Sì, sì, sì, ma tra l'altro uno era stato da poco scarcerato per droga, qualcuno mi dice anche che è abbastanza incredibile che sia stato scarcerato. Scarcerato il giorno prima che commetteva il suo delitto. Sì, però. Sì. Davide, grazie, ciao. Alessandro, Modena, vai, anzi Simone da Udine, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao dimmi, Parenzo. Dimmi, Simone, ciao, dimmi. Aspetta un attimo che sono in viva voce, aspetta che mi accosto. Dai, forza, dai. Arrivo. Forza. Allora, eccomi qua. Dai. Secondo me, cioè il discorso che il veganesimo è l'ISIS 2.0, sì, per quello che mi riguarda. Cioè, mi pare una cazzata. Sì, no, ma la metafora ci può stare, dimmi. No, ma nel senso che secondo, cioè, una che viene a dire morto il pesce, morto Paolo, insomma, chi era sto qua. Cioè, ma siamo veramente la follia. Io non, cioè, non, io sono preoccupato perché non escludo l'ipotesi che un giorno sti qua, non so, arriva il leader mondiale del veganesimo e venga a dire: ah, ma siamo gli infedeli che mangiano la carne e trucidano i maiali. No, ma non siamo molto lontani da quello, lo dicono, sì, già. Cioè, lo dicono già, che poi lo facciano, che poi lo facciano sul serio, ovviamente. Ovviamente no. Però, sai, molte cose sono iniziate in questo modo. Quando uno professa la rivoluzione, quando uno professa, come dire, una specie di nuova religione che prevede il fatto che tu che mangi la carne sei un assassino, poi non si può prevedere quello che succede, amico mio. Poi, ovviamente, le cose sono lontane. Però le cose che sembrano più lontane, magari poi si avvicinano all'improvviso. Sì, sì, Maria da Roma, vai, Maria da Roma, ho capito, Simone, grazie. Maria. Dunque, caro Giuseppe. Sì. Io sono un'assidua ascoltatrice di lei e di, del spiritoso Parenzo. Allora, e le volevo dire che questo agnello, povero ragazzo sacrificale di questi indemoniati della droga, la droga la dovete smettere di prenderla quando andate la gente, i giovani, nei locali sì, notturni. Ma non è che questi qua appare, non so se questi qua erano pieni di cocaina, probabilmente sì. Guardi, Giuseppe, sì, Maria, ma il problema non è la cocaina. Non è che tutti quanti. Solo questo, sì. Un attimino. La sera prima il delinquente Castagnetti, come si chiamava? Il delinquente, speriamo, sì, che gli diano la sedia elettrica. Ah, pure lei, pure in lei, questo caso, pure questo lei per caso la sedia elettrica. Non c'entrava niente quel povero Emanuele. Sedia elettrica? Sarà, avrà detto qualche parola. Insomma, pure lei è per la sedia elettrica, signora? Avevano fermato con tante dosi di droga. Sì, sì, lo so. La droga. Ho capito, ma non è che gli assassini. Ho capito, Maria, non è che gli assassini sono tutti cocainomani, eh? Cioè, non è che quelli. No, cocainomani, no, anzi, a volte fa pure. Io non lo so perché non l'ho mai preso. Scusi, Maria. Fa pure. No! E possono prendere altre dosi, magari più forti, quando stanno dentro una specie di grotta come quella di questo paese. Ma non ho capito questa cosa della sedia elettrica. Lo manderei alla sedia elettrica quando ci vuole. Ma come, ma signora Maria, ma lei con la voce così soave, tranquilla, parlava, ma... quando usciva gli menava. Cioè, secondo lei sedia elettrica, uno che muore così con le scosse della sedia elettrica, guardi, l'ergastolo questo libro, rispaccia droga forte, ciao. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. È tornato il momento del peggio di Radio Calabria, ex Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti, Barin. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri. Non dovrebbero neanche esserci nel nostro paese, perché dei genitori con un minimo di intelletto non mettono sul barcone da soli bambini di 5, 6, 7 anni, cazzo! Non ce li mettono questi bambini, ok? Ma come cazzo vive questa gente? Ma fanno figli come conigli, non gliene fotti un cazzo se muore qualcuno! I minori stranieri soli non potranno essere respinti. Wow, che figata che ha fatto il nostro governo! Bello davvero, perché i bambini stranieri fino adesso li vedavamo prostituirsi alla stazione di Roma, vergognosamente. Libertà! Immigrati, non chiamateli clandestini. L'utero in affitto, non chiamatelo in questo modo così cattivo. Fate un giro di parole, possibilmente inglese, così la gente non capisce un cazzo. Guarda avanti. Ascoltatori su Bergoglio, senti. Ma questo è scemo proprio, ma i minori non accompagnati già adesso non possono essere respinti. Mica l'ha fatta il governo, è una norma di civiltà che c'è dappertutto. Senti, idiota. Senti. Io mi sento offeso anche da te quando dici la parola, quando nomini la parola papa con quel personaggio. Quello lì non è un papa, ma è un impostore che è stato messo su dai personaggi che ben conosci, massoneria, al posto del vero papa. Il vero papa è stato obbligato, cioè Ratzinger, a mollare la veste di papa, altrimenti faceva la fine di Luciani. Non chiamatelo più papa, fatemi un piacere, cazzo, questo è un impostore che ci ha reso schiavi. Tutto per la libertà. Servi di Roma fuori. Bergoglio è un impostore. Ragazzi, la notizia di oggi è che Paolo Barnard, ve lo ricordate Paolo Barnard? Sì. Ha dichiarato che diventa vegano. Ormai si capisce tutto, Parenzo. Ormai è tutto chiaro. È tutto chiaro. Barnard diventa vegano. Basta mangiare sangue umano. Io diventerò vegano e lo farò in modo intelligente. Il mio basta mangiare sangue umano è la cosa chiave per capire perché io, Paolo Barnard, ho preso questa decisione. Ragazzi, la scelta di Barnard mi convince, sì, ancora di più che sì, questi qua sono fuori di testa. Guarda, no, un motivo in più, un motivo, sì, in più. Io mi aspettavo che lui annunciasse che so, basta, lascio questo paese, vado via. Vabbè, quindi quello sarebbe stato meraviglioso. Ancora, no? ancora. E invece... Io sono Paolo Barnard, 32 anni a testimoniare nel mondo guerre, atrocità, il mostro neoliberista, 100 inchieste, migliaia di articoli, 6 libri. E poi io in trattoria ordino sangue umano, stragi, assassini, sofferenze di milioni di poveri senza voci e distruzione dell'ambiente. Tutto in un filetto alla griglia. Eh no. Cioè, o sta scherzando e ci sta pigliando per il culo, oppure è veramente un cretino pure lui. Cioè, è entrato nel cretinismo totale. Io direi questo. È entrato nel cretinismo totale. Però ragazzi, adesso noi vogliamo chiamare un signore che Parenzo sicuramente esalterà, un imprenditore piemontese che si chiama, credo, Bertolotto, una cosa del genere, Bertolotto, ed è un signore che ha subito una rapina dentro casa. C'erano due figli dentro casa, la moglie e alcuni di questi suoi parenti, la moglie e una figlia, credo siano stati anche malmenati. La gente aveva, questi ladri avevano un cacciavite, hanno rubato poche cose alla fine perché qualcuno ha azionato un allarme. Questo qua, questo signore Bertolotto, dice che vuole che questi qua si costituiscano, questi ladri, e vuole poi assumerli nella sua azienda. Bravissima. Ma bravissima cosa, bravissimo un cazzo. Questa rubrica si chiama Bella Italia. Ma che bella, non è nessuna rubrica. È una rubrica che noi da oggi c'è. Racconteremo ogni giorno, cioè dopo tutto questo schifo che mandiamo in onda, personaggi miserabili, sedia di morte, pena di morte, gente che urla, dice parolacci, cunilingus, porcherie, oggetti che vengono messi in posti dove non dovrebbero essere messi, allora? Orge, mariti che tornano a casa e sono felici di trovare la propria moglie, compagna, che è col fidanzato lì, e questo è tutto normale. Allora? Faremo una nuova rubrica che si chiama Bella Italia, dove racconteremo queste storie. Ma non c'entra nulla, ma non è vero, esemplari. A parte che non è vero, Bella a parte Italia, che... nuova no, rubrica, ma ragazzi, bellissima. Dai, su, non dire cazzate. No, è giusto, è bello. Ma non è vero, dai. Pronto? Bertolotto? Sì, buongiorno. Buonasera, mi chiamo Cruciani. Crispo a Cruciani. Come e andiamo? Parenzo. Come andiamo? Poi a Paolo Cruciani, come stai? Ecco. Bene, bene, lei come Bravo. Sta? Ah, io sto sempre bene, guarda. E le posso Bravo. Chiedere una cosa? Lei ha l'auricolare per caso? Adesso ho l'auricolare, sì. Ecco, se lo toglie sentiamo meglio, così chiacchieriamo meglio. Vedete che tiro l'acqua del gabinetto perché mi hai preso nel posto giusto. No, Bravo. Bene, sentiamo questo. Vai. Ah, che bello l'acqua del gabinetto. Che stava facendo? Scusi se glielo chiedo. Ah, no, pensavo. Aspetta che ti leggo, qua c'ho scritto. Aspetta, Pensavo servizio completo. Amico, l'incendio è finito e tu non hai l'idrante in mano e se ti trema siediti. Ma dov'è quello? Dov'è? Nel mio gabinetto della mia azienda, no, sono qua a Cuneo. Ma lei ogni tanto la fa fuori? Io sono un italiano medio, perciò ce l'ho così, no? In che senso? Lei ha visto il Dante a Firenze, non ha un pistolone, Dante a Firenze lo vedi, c'ha un pistolino, no? Lei c'è nella media come lunghezza, diciamo? Nella media. No, e sempre quanti anni hai tu, scusami? Io ho 63 anni. 63 anni, ma Antonio? Ma sono giovanotto, né? Cioè, amico. Ancora trombi? Trombo? Guarda, quella è una cosa riservata. Vabbè, è che... Che ne faccio 10 al giorno, così ti ho risposto. Ma che 10 al giorno? Sì, 10 al giorno. Dai. Sarai 10, al massimo ne farai 10 all'anno. Ma scusa, ma ti lavi le mani dopo? Mi sembra di no. Cioè, no, le mani le lavo prima. Sì. Tu vai in un ambiente che è sporco, vai a fare la pipì, ti tocchi, no? Il capitale si lava prima, sì. E poi ti lavi anche dopo. Io adesso non mi sono lavato, adesso vado a lavarmi. Bravo, no, non si lavi, dia le mani a qualcuno, no, là in azienda. No. Stringa le mani a qualcuno senza lavarsi. Non è obbligatorio questa fissazione di lavarsi le mani dopo aver fatto la pipì. Ma chi l'ha detto? È una follia. Hai ragione, io me le lavo prima, perché per rispetto, per non pigliare malattie, te le devi lavare prima. Esatto, vabbè, quello si può anche. Io non me la lavo né prima né dopo. Comunque, vabbè, faccia lei. Ma non mi sembri particolarmente affranto da questa rapina che hai subito, però scusami se te lo dico. Io faccio anche così perché intanto mi tira su me, poi tiro su mia moglie, che è stato il mio grande capitale. Ma che è successo concretamente? Cosa è successo? Sono... No, è successo quanti erano? Noi eravamo lì che mangiavamo cena, sì. e noi da tre quarti d'ora avevamo 4, 5, 6, non so quanti erano, gaglioffi, che signori che ci guardavano da fuori, sì. E aspettavano che entrassimo, perché in casa non si, la casa è, diciamo, chiusa bene, non si può entrare, sì. Però avevo gli allarmi spenti. In quanti sono entrati? Sono entrati in quattro, ma sono entrati malamente. Mia moglie, come apre la porta, boom, gli saltano addosso mia moglie e mia figlia, botte, e le trascinano sotto un tavolo. Avevo la bottiglia del vino in mano, come lo vedo, lui mi viene contro, io ho preso la bottiglia dalla parte del collo per dargliela in testa per difendermi, perché qua mi vuol bucare. Invece lui si è fermato e mi ha detto: buttala che se no ti buco. Io ho detto: dai amico, io la butto, ma tu lo butti, togli quella roba lì. E lui l'ha messo nella cintola. Ma che c'aveva, una pistola? No, un cacciavite grosso. Ah, un cacciavite. Lungo 30-40. E tua figlia che fine aveva fatto intanto? Mia figlia e mia moglie erano nella sala che mi agolavano, io sentivo solo la voce delle donne. Ma tua figlia l'hanno picchiata? Credo. Come sono entrati, gli hanno tirato 3 o 4 Bertassi, ma di quei potenti. Bertassi, che sono pugni, schiaffi, che sono? Pugno, via. E mio figlio stava salendo in camera per pigliarsi il telefonino, tutto all'istante. E ha toccato il bottone dell'allarme, io i bottoni ne ho dappertutto, solo che non abbiamo avuto il tempo, 2 secondi. E alla fine che hanno rubato? Ma mi hanno rubato poco, perché lì in fretta hanno chiesto: dov'è cassaforte, dov'è cassaforte? Ho detto: la cassaforte lì, piglia cosa vuoi, lasciati solo stare, prendete cosa volete, lasciateci stare. Ora mia moglie si è alzata, gli ha aperto la cassaforte, c'erano circa 600 euro, e poi, dato che quando mi hanno dato i pugni a me, io ho cercato di difendermi e ho visto l'orologio d'oro, me l'hanno preso. Non penso quello, ci tengo perché me l'ha regalato mia moglie, la prima centrale elettrica che ho costruito. Certo. Non sei armato? No, guarda Cruciani, questa cosa qua non si risolve facendo i cowboy. Tu hai fatto un appello a questi ladri, sì. Di costituirsi, innanzitutto perché vuoi l'orologio, immagino, indietro. No, prima voglio che le scuse a mia moglie, che è stata bravo. La mia fortuna, e mia figlia. Ma bravo, le scuse bravo. Di che? Questi devono andare in galera, altro che scuse. No, devono fare la pena, io non sono la legge, lo Stato gli farà fare la pena che deve fare. Quando escono, no, se chiedono scusa a mia figlia e a mia moglie, mi danno indietro l'orologio, io glielo pago il doppio di quanto gli danno i ricettatori, e poi gli do un anno di lavoro. Ma lei e gli faccio scuola. Bravissimo, questa è l'Italia migliore, ma ti rendi conto? Intervista va mandata, sì, lei è l'Italia migliore, questa intervista va mandata in continuazione. Questo è un eroe nazionale. Ma cosa dici, Parenzo? Ma no, davvero, dici delle cose straordinarie, di assoluto buon senso. Ma vedi che esiste una bella Italia. Questo Parenzo, signore è stato rapinato. È un messaggio sbagliato. sbagliato. No, è un messaggio sbagliato. È un messaggio civile. È un messaggio sbagliato. Questi devono finire in galera, punto e basta. Che assume? Perché non assume un italiano? Non un ladro. Dai. Devono andare in galera. Ma ho capito, ma perché dopo assumerli? Intanto assumiamo la gente competente, non uno che ha fatto una rapina. Magari questi sono competenti, non lo so. Io ho fatto dell'idea che questi immigranti devono diventare il futuro della forza italiana. Ragazzi, se non li prendiamo come futuro, saranno le nostre mancanze del futuro. Noi dobbiamo prenderli. Ma poi questi sono dei ladri. Stai zitto. Questo saranno è un manifesto. Ladri, saranno dei ladri. Bravo, ma è un messaggio sbagliato. Perdonare, ma col bastone in mano. Bravo. Ma non mi pare col bastone. Li vuoi assumere? No, li vuoi? Lui dice carcere. Lui dice no, non travisare. Lui dice devono pagare per quello che hanno fatto e poi gli do un posto di lavoro. Questo è bello. Sì. Uno fa una rapina per un anno come formazione. Uno fa una rapina. Uno fa una rapina e poi viene assunto in un'azienda. C'è il recupero c'è il recupero del criminale. Questa persona è un cittadino esemplare. Mattarella dovrebbe dargli la medaglia al merito a questo signore. E se avessero stuprato tua moglie, avessero stuprato tua figlia, lo avresti fatto? Non sarei più qua a parlare con te perché gli saltavo addosso e mi facevo ammazzare. Quelli che sparano, li capisci o no? Ma certo che li capisco e gli dico continuate a sparare perché bisogna che ognuno sia libero di fare cosa vuole. Bravo. Io non dico che bisogna fare tutti i cowboy o tutti fare niente. Io la penso. Parenzo dice che è un esempio. È un esempio, dovrei dargli una medaglia. Il Presidente della Repubblica dovrebbe dargli una medaglia. Ma voglio dire, ma è messaggio un esempio di civiltà assoluto. Messaggio sbagliato. Assoluto, grande Cruciani, esempio di civiltà. Cruciani, fra 500 anni saremo tutti color cioccolato. Ma col cazzo! Ma scusami, Antonio, non ti conosco. Ma tu sarai diventato color cioccolata. Tu sarai diventato. Io no. I tuoi figli, i tuoi nipoti. Capolista della lista Parenzo. Perché non ti sei ancora sposato, scusami. Poi diventerai poi anche te. Diventerà tutto nero, tutto nero. No, saremo tutti un po' bronzati, è così. Ma guarda, roba pazzesca. E con gli occhietti un po' in su, perché ci mescoleremo tutti. È bello questo, Dio ci ha fatti per quello. Per mescolarci. Ma sì, procreare. Fate del bene. Va bene Antonio, ciao, grazie. Ciao Cruciani. Ciao, numero uno. È il messaggio più negativo che si possa dare. Premiare gente che ha minacciato una famiglia con un cacciavite, premiarlo addirittura dandogli un lavoro. No, non si premia una cosa vergognosa. Questo un messaggio negativo. Questo bravo cittadino, questo bravo imprenditore che. Sì. Questo bravo cittadino che peraltro dovrebbe forse guidare anche solo le 24 ore, voglio dire. Ma perché? Ma c'è da solo 24 così ore? Perché è bravo, mi pare preparato e bravo. Vorrei semplicemente che venisse ricordato che il capo dello Stato riconoscesse in quest'uomo la migliore Italia, perché lui ha detto ha commesso un delitto, quella persona va in galera e dopo però c'è il riscatto. Questo è il messaggio che deve passare. Guarda, era talmente bello, come vedete, che secondo me possiamo chiudere anticipatamente. Ma no, fermo lì. No, fermo. Perché tu sennò infarcisci con prostitute, trans, no, cose, non c'è mistress, nessuna prostituta. Poi, ma che c'hai contro le prostitute, contro i trans e contro le mistress? Non ho capito. Devi avere nulla, sono lavoratrici come te. Le mistress. Fermola. Però. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro. La Zanzara. La mia vicina, 35enne, capelli rosso fuoco, minigonna, vedo pelo, mi dice: Enrico, passeresti stasera da me per le 8? Sai, mio marito è fuori coi suoi amici. No, bella, col cazzo. Io alle 8 ascolto la Zanzara. Siamo al top. Quando sento la Lores da Vicenza che dice napalm, ha una frequenza della voce che ti penetra dentro. Sento la rabbia salirmi, l'odio contro gli altri, la xenofobia. Tutto in una volta mi sale come uno tsunami. Napalm. Napal! Frozen to the bone. I got a soul on. Allora, grande battaglia televisiva tra Mineo, il signor Mineo. Mineo sì, Corradino, come no? Corradino Mineo e la Santanchè sulle armi, sull'uso delle armi. Keep your distance. Poi si dice diritto alla difesa. Allora cosa facciamo? Creeremo dei muri altissimi, metteremo le sbarre alle finestre, gireremo con la pistola. Allora questo mondo non è un mondo libero, non è un mondo civile, è un mondo medievale. In realtà queste persone, lei lascia la porta queste aperta, persone, io lascio sostanzialmente lascia la porta aperta, aperta. Allora queste persone macchina. Sostanzialmente stanno vagheggiando delle cose simili a quelle che vagheggiano gli integralisti islamici, il ritorno al Medioevo, al farsi ragione con le armi, alla perdita di quel livello di civiltà che abbiamo conquistato. Ecco, Mineo come Parenzo in pratica. No, sì, Mineo dice, come Parenzo. Cioè, dice delle cose di assoluto buon senso. Mineo come Parenzo. Cioè, giusto, o Parenzo come Mineo, uguale. La Santanchè rispondeva a questo signore in questo caso. La Santanchè. Sì, la Santanchè. Lui dice la Santanchè. No, la Santanchè rispondeva. La Santanchè. La Santanchè rispondeva a questo signore e dal trattamento sanitario. La Santanchè, ma cos'è? Ma e cos'è Mineo? La Santanchè rispondeva. E cos'è Mineo? Questi fabbricatori di paura, perché queste persone qui sono dei grandi fabbricatori, incubatori di paura. La Santanchè è un incubatore di paura incubatrice, e di odio. Sì. Vabbè? È un incubatore, lei come, non come donna, in quanto quando, no, persona, lo so, come partito, è un incubatore di paura e di odio. È proprio lei, allora? Lei, quella roba. No, allora non c'è allora. Cioè, che questi qui vanno in televisione soltanto per dire che gli immigrati stupano, ma quello, ha detto che chi vuole usare le armi vuole tornare al Medioevo, sì, all'integralismo islamico. È abbastanza chiaro che se tu fai una società che è tutta armata, ma chi l'ha detto? Alla ma fine chi lo non sostiene? Diminuisce la violenza. Chi sostiene che tutti si devono, che tutti si devono armare ancora, sentiamo ancora. Ma ci vuole qualcosa di grave. Ma lei si rende com'è lucido in questo momento quando dice queste robe? Se lo chiede lei di le se pensa stessa. Veramente? Se lo chiede di se stesso. No, perché è preoccupante. I crociati sono come gli integralisti islamici. Allora, scusate. Che si fanno saltare in aria, che ci ammazzano. Ma lei non deve permettersi di dire in televisione queste cazzate qua. Perché ci stanno guardando. Che messaggio dà? Ma lei non sta bene stamattina. Allora, dove andiamo? Andiamo a Simone Milano, vai Simone. Simone? Ciao, ciao. Dimmi Simone. Ciao Giuseppe, dai. Ciao David. Vai. Buonasera. Vai, forza. Mi piace salutare come piace a Prezzo, scusa. Vabbè, dai, dimmi. Ciao, volevo dire, io ho telefonato non per demagogia, ma seriamente, sentendo la telefonata del signore di prima, che ha subito quello che ha subito. Insomma, io sono disoccupato italiano, sì. Sinceramente, volevo chiedere se perché non dava, non può dare magari un lavoro a me che sono italiano, se magari c'è la possibilità, e non a chi magari, ma non per non darlo agli stranieri. No, ma hai ragione tu, Simone. No, ma non è in alternativa, però. Ha ragione, questo Simone. Calamoroso. Uno, io capisco, cioè, l'imprenditore di prima, ma è un messaggio assurdo, è una cosa assurda. No, scusa, quelli rapinano in casa, tra l'altro con l'accento straniero, ma questo chi se ne frega? Io volevo dire, e lui dà il lavoro a questi, ma che sei impazzito? Dare lavoro agli stranieri va bene, ma non è questione di stranieri. Dai. A uno straniero che viene in casa tua e ti fa quello che ti fa, mi sembra quasi una provocazione verso. Ma non è una provocazione, è semplicemente un modo per dire che questa società ed è incantato se uno dice una cosa del genere. Ma è incazzato, scusa, perché? David, io ti rispetto. Dimmi. Molto, anche le tue posizioni. Allora? Non è un discorso razzista, voglio soltanto dire che dare lavoro a uno straniero va bene, ma dare lavoro a uno straniero che ha fatto quello che ha fatto mi sembra quasi. Intanto quasi deve fare la galera. Ma sì, è una. Intanto deve fare la galera. È una, sì, vabbè, ci mancherebbe. Quindi pure deve, che dice, deve pagare il suo conto con la giustizia. Là. Poi questo signore ci sta dicendo dall'alto della sua anche civiltà e del suo ma modo. Ma che c'entra? Ma c'entra e come? Perché lui dice: non è che è una persona che poi è stata in galera alla fine deve essere un reietto. Ma chi ha detto che è un reietto? Ma perché gli devo dare il lavoro? Perché tu dici: mi pongo il problema e se posso lo prendo addirittura nella mia azienda, cioè è un atto. A te piacciono queste cose, ma sono delle ma cose non è che, di discriminazione, cosa... di discriminazione, questo di discriminazione. Simone, assolutamente sì. Tu sei pazzo. Vabbè, scusa, di io forse parlo forse il mio sarà un classico caso di uno incazzato. Sì, sono incazzato perché sono senza lavoro e non faccio fatica a trovarlo. 46 anni e mi sembra che ho tutte le porte sbattute in faccia, allora forse è per quello che arriva uno che dà lavoro ai ladri per andare a lavorare. Ma dai, mamma, Andrea, scusate, Verona, dai, signore. Andrea Verona, vai. Sì, pronto, ciao, buonasera. Dimmi. Io sono, sono uno di quelli che ha segnalato il fatto che uno dei due di Alatri è stato scarcerato il giorno prima dal GIP. Sì. È un altro di quei casi in cui abbiamo il colpevole tra le mani e lo lasciamo andare. Però Andrea, vorrei... io non lo so. Come si poteva prevedere che sarebbe accaduto la cosa simile? No, ma era pieno di dosi 300, di cocaina, sì. 300 dosi di cocaina. No, crack. 30 sembra, 30. No, 300 dosi. Sì, ma comunque, non lo so. Sicuramente... Amico mio, l'hanno scarcerato secondo, penso, le leggi, non lo so, non non so giudicare perché non so rimanere in galera. Sì, però Andrea, d'accordo con sono d'accordo con te. Certo, ma... Però il problema è che non so esattamente quante dosi avesse questo qua, perché l'hanno scarcerato, non ti posso dire niente. Anche a me sembra strano comunque che questo qua pieno di dosi di droga, praticamente dosi da grande spaccio, sia stato scarcerato dopo qualche giorno, diciamo. Questo era un rom, cosa sarebbe successo? Sì, immaginate. Ma l'avrebbero massacrato, l'avrebbero probabilmente scuoiato vivo in piazza. Io non lo so, Andrea, il motivo per cui è stato scarcerato. Certo, questo giudice probabilmente sarebbe stato ammazzato lo stesso. Emanuele sarebbe stato ammazzato lo stesso. Immaginiamoci come sta il giudice che l'ha scarcerato adesso, peraltro. Vabbè, quello chi se ne frega. Che cazzo me ne frega a me del giudice che l'ha scarcerato? Ma non è che l'ha fatto con la volontà di rimettere un criminale. Però la conseguenza che è stata che una che uno dei due protagonisti della vicenda dell'Atri è stato pizzicato con una marea di droga, con procedimenti penali, è stato scarcerato con una marea di droga in tasca e dopo è andato ad ammazzare uno. Questo è il punto. Giuseppe da Modena, vai. Giuseppe, dimmi. Giuseppe, dimmi. Ascoltami una roba. Allora, qui va tutto male. Qui vanno a rubare e questo gli dà il posto di lavoro e io direi mandiamoli tutti. Il Sole 24 Ore, ci sono dei problemi, ma lì ho già risolto. Perché al bar facciamo una petizione popolare e la teniamo in vita noi, la trasmissione radio ne abbiamo finché voglio. Ma la domanda importante che ti faccio a Parenzo è questa. Scusa Parenzo, io non posso parlare con i vegani perché in vita mia ho 56 anni, abbiamo fatto i conti, ho mangiato circa 4.000 maiali tra prosciutto, salame, tutto. Sì, ma facci i conti, quanti ne hai mangiati te, vedrai che non sei tanto lontano. 4.000 maiali non credo proprio, amico mio. Quanti anni hai? Ma scusa, quanto salami, prosciutti mangi, pancetta, hamburger? Ma no, io non tantissimi, devo dire la verità. Per no, cui lui è salutista. A 4.000 maiali non ci sono arrivato, te lo posso assicurare. Ma comunque, vabbè, lasciamo perdere, dai. Vabbè, la domanda è questa, perché i vegani... Qual è la domanda? Parlano, qual è la domanda? La domanda è, secondo te, le vegane la prendono in culo? Ma perché, scusa, che collegamento c'è? Domanda... Perché sono integraliste. Ma cosa c'entra? Ma perché non dovrebbero prenderlo in culo le vegane? Scusa, spiegami. Perché secondo me, se loro seguono il profilo della natura, che non bisogna ammazzare, dovrebbero seguire anche... E perché? Che c'entra questo con... Che c'entra col sesso anale? Scusa, spiegami. C'entra col sesso anale, perché secondo me loro non la prendono. Ma perché? Perché? Chi l'ha detto? Ma perché è una curiosità, te lo sto Ma non c'entra niente con l'alimentazione. Ma se tu lo chiedi. Ma non c'entra, comunque sì, penso proprio di sì. Cioè, penso proprio ma di tu sì. Tu pensi di sì? Vuoi ma non c'è nessuna non c'è nessuna cosa che osta, non c'è nessun ostacolo. Ma perché non mi togli la curiosità? Ma cosa c'entra? Ma ho capito, ma uno fa delle domande che abbiano un minimo di senso. Io è vero che faccio domande. Cioè, siete così integralistiche nel sesso? È concesso tutto, come nella vita e nell'alimentazione, o avete delle limitazioni? Sì, ma si è parlato sempre di un'altra pratica che è la fellatio, perché appunto... quella è il punto, perché nel sesso che dici tu, nel sesso anale, di cui ci ha parlato ieri lungamente il signor Siffredi e di cui ci ha parlato anche la signora De Mari, non mi pare che ci sia molto da discutere su, non ci sono implicazioni di carattere... No, di carattere... Secondo me invece ci sbagliamo. Ma no, no. Antonio, provincia di Latina, vai. Sì, ciao, buonasera a tutti, vi ascolto da sempre, la prima volta che chiamo. Vai, dimmi. Io volevo parlare di riferimento al ragazzo che è morto di Veroli, da foto che sta praticamente pescando. Io sono un pescatore... Che Veroli, Alatri, sì, sono... Alatri, scusami, di Alatri. Allora? Sono circa 30 anni che vado a pesca, prenderò se no un pesce al mese, se la misura minima lo anche li butto, se è di mare me lo faccio con le patate, se è di più me lo li butto uguale. Voglio capire, ai nazi vegani di prima, che problema do alla natura io, che sono un pescatore così per hobby, per passione... Vado da sempre, non prendo mai un cazzo, e poi mi vengono a sentire dire che rovino la natura. Poi, per concludere, dico anche un'altra cosa. No, ma non ho capito niente, solo sai che non ho capito nulla. Cioè, che cosa vuoi dire con questa roba? Non sto ho capito. Dicendo semplicemente che queste persone animaliste dovrebbero pure rendersi conto di quello che dicono. Io vado a pesca. Ma questo l'abbiamo già detto, prendo, Antonio. Qual è il punto? Non prendo mai un cazzo, non prendo mai niente. Non voglio capire quel pesce che mi porta a casa. Sì, ma quel pesce che mi porta a casa possa rovinare qualcosa, perché si è messo in evidenza anche che fosse un pescatore. Tutto qua. Poi per continuare la cosa dico che in quella foto lì probabilmente lui faceva una tecnica specifica di pesca che è il catfishing e la carpa l'avrà anche ributtata. Ma è una carpa quella? Lì, è una carpa? Sì, perché quei pesci lì non si riportano a casa. Addirittura ci sono amici che praticano quel tipo di tecnica. Vabbè, ma adesso non entriamo nei dettagli. No, non è quello sto dicendo, una morta allamata gli curano anche il labbro e poi la rimettono in acqua. Ma io sono sempre convinto che i pescatori, che siano essi pescatori di pesci o di altre cose, sì. I cacciatori, eccetera, amano molto più gli animali di questi coglioni, capito? Questo assolutamente, è quello che sto cercando di Silvio dire. Silvio da Padova, ciao fatto. Antonio, Silvio Padova, vai. Silvio, pronto, Silvio, vai, dimmi, forza. Sì. E beh, volevo dire il fatto che, sì, Parenzo, come tutte le volte stasera... ha colto il culmine, diciamo, no? Cioè che ha fatto? Assumere uno che ha rubato in casa, per quanto ma non bene l'ho detto io. Fare. Beh, lei dovrebbe, l'ho approvato e come? Questo Silvio da Padova dovrebbe prendere ad esempio quella persona che ha subito sulla sua pelle non solo un furto, ma della gente che gli è entrata in casa. E allora? Dice, mi auguro, non ha chiesto, silenzio, non ha chiesto la sedia elettrica di che venga massa, che gli vengano tolti i polmoni e venga inficcato in piazza e virato in piazza davanti a tutti. Ha detto in modo molto civile, stando a quella che è la legge italiana, dice io mi auguro che finisca in galera, che paghi per quello che ha fatto, dopodiché io sono disposto ad assumerlo. Mi pare un esempio di una civiltà straordinaria, di una persona che invece di essere vilipesa, presa in giro come state facendo voi, tu e quest'altro, di prenderlo in giro, di sbeffeggiarlo, uno dovrebbe fermarsi un attimo e dire caspita, io non lo sto sbeffeggiando, sto dicendo questo che... demente che chiama sarebbe da dire ma no, caspita. Sei pazzesco tu e Silvio da Padova. Vai, sarebbe Silvio, come dire, dimmi. Uno dovrebbe fermarsi e dire caspita, però in questo paese esistono anche delle persone civili. Ma c'è gente che aspetta di lavorare e questo assume i ladri. Ecco l'altro, ma fa culo, ecco l'altro che arriva. Mi lasciate dire? Dimmi. Ma uno che ha fatto ladro, quando voi credete che lo mettete in sesso per poterlo fare lavorare? Ma questo vuole solo l'orologio indietro, dai, su, vuole l'orologio che tiene l'orologio, vuole solo l'orologio indietro, quel Bertolotto lì, Bertolotto, dai, se, Bussolotto, Bertolotto, Bortolotto, come i fagioli, dai, sui Bortolotti, eccolo dai. Qua, ecco su, qua, ragazzi, sbattese. Ma di che parliamo? Purtroppo quelle persone che hanno fatto una cosa del genere non si fermeranno così Borlotti, facile, come si chiama? Voi. Borlotto, il signor Borlotto, come i fagioli, dai, Mauro da Gorizia, vai, Mauro. Vai all'attacco, Mauro, vai all'attacco, vai. Eccomi, io volevo proporre come Oscar alla coglionaggine quel signore che vuole assumere i ladri con 6 milioni e mezzo di disoccupati relative famiglie di italiani. Bravo, ci sono Mauro, Funziona così. C'è il Parenzo al Bortotto di turno. Poi c'è l'altro, il bel Pietro della situazione, l'ottimo Cruciani. Allora, avanti, all'attacco, all'attacco. L'altro da Varese che chiama: maledetto, frocio, Parenzo, bastardo, che ti stuprino in casa. L'altro interviene, il bel Pietro della zona della Cruciani. No, ma non stiamo dicendo assolutamente niente qui. Prego, signore, cosa voleva argomentare ancora? Maledetto, tu, Bortotto, i ladri, portati a casa tua. No, un momento, va bene, traffico, pubblicità, ci sentiamo domani. Tutto così. Mauro, allora? Ciao. No, aspetta, che devi fare? Stavi parlando? Che stavi dicendo? L'hai fatto scappare, ma sei incredibile. Salvio da Napoli. Ecco, scappare. Salvio da Napoli, Salvio. Sentiamo che ha da dire. Senti? Sì, dimmi. Senti, caro, no, io sono intervenuto così, perché comunque... Così? Vedo che ci sono, non c'è un cazzo da fare? No, assolutamente, sto pure lavorando. Stai lavorando? Beh, è strano, però, le 20:50, vai. Purtroppo. Vabbè, allora Sabio, che vuoi dire? No, una cosa è concreta, che comunque state diventando una specie di succursale di Radio Calabria contro ma i napoletani. In culo, ma chi è contro i napoletani? Ma che stai a dire contro i napoletani? No, ma chi è contro i napoletani? Posso dire perché? Perché? È perché, dai. Allora, qualsiasi per quanto riguarda i piagnistei vari, sì, soprattutto diciamo nel calcio, sì, ci stanno da parte di tutte le squadre, va bene? No, no, no, a Napoli sono specializzati nel piagnisteo. No, non siamo specializzati. Siete specializzati nel piagnisteo? No, guarda che ci sta Inter Milan, che piangono molto, no, per esempio. Ma l'hai sentito, l'hai sentito quel signore di ieri, il signor Taglialatera, l'hai sentito o no? Cosa ha detto il signor Taglialatera? Sì, ok, vabbè, ma su quando ci sta da fare una critica non ci stanno problemi, Cruciamo, ma è problema. Vabbè, diciamo, Sandro, cosa vuoi dire? Non ho capito, cosa vuoi dire? No, voglio dire che comunque alla fine voi cercate sempre, diciamo, alla caccia del piagnisteo napoletano. Però no, ma non esiste questo piagnisteo, punto e basta, Salvio, dai, Rosario, Ragusa, chiudiamo con Rosario, dai, Rosario. Rosario. Rosario. Dimmi, dimmi, lo so. No, io volevo parlare del fondamentalmente. Di cosa? Il bidet. Sì. A che cosa serve? Il bidet serve, no, amico mio, serve. Anche con le mani serve, soprattutto con le mani. No, però dico, io personalmente non mi sono fatto mai il bidet. Cioè, ma va, io... ma non ci credo, figurati se non ti sei fatto mai il bidet. Dai, impossibile, dai. Su, ma qualche volta, in tutta la cioè, mia come vita. Ti lavi con le cose, con le spugnette? Io mi lavo nella doccia, va. Io... Quindi il bidet non l'hai mai fatto tu? No, l'ho fatto, però poche volte, pochissime volte. A noi cosa ci interessa a noi se Rosario si è fatto o no il bidet? Mi posso dirti, alle 20:52 meno di niente, alle 20:48, cioè ancora prima della sigletta. Però Parenzo, è una cosa importante. Qual è la cosa importante? Dimmi, qual è la cosa importante? Cioè, il bidet fondamentalmente non serve a un cazzo. No, ma serve, amico mio, serve moltissimo il bidet. Io passo direttamente dal cesso al bidet senza lei prima. Lei sarà d'accordo sorte con gli inglesi, quindi con la Brexit. Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere, non rompete i coglioni. Ciao, Rosario, già vado a fare il bidet. Ciao. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterseli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Parlate di Pucciac! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare.